La zanzara. Con Alessio Maurizi. 18 e 6 minuti, buonasera gentili ascoltatori, ben ritrovati. 824 0024, il numero verde per intervenire in diretta come ogni sera, 349 238 6666. Potete anche iscriverci, la zanzara è radio24.it, questi sono i nostri contatti. Allora, qualcuno ha detto si è chiuso il teatrino estivo sulla politica estiva, già c'è stato il vertice, sentiamo. Se da anni e di malanni non si sente più novella, se ciascun sorride lieto e la vita trova bella, se ragione misteriosa a gioir ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari. E il vertice di Villa Campari si è chiuso, c'era molta aspettativa in un clima un po' surreale, non è cambiato niente alla fine perché insomma il governo va avanti così, Bossi ha fatto capire che Casini non lo vuole, un clima surreale perché insomma le crisi politiche in genere si affrontano in Parlamento, qui un vertice a Villa Campari, poi chissà davvero se Berlusconi davvero aveva in testa di convincere Bossi sull'ingresso di Casini, sembrava fantapolitica, erano solo retroscena. Scena. E invece era proprio questo il tema dell'incontro, l'ha confermato lo stesso Bossi al termine e ha detto no, si va avanti senza Casini. Di andare avanti senza Casini e di andare avanti a portare avanti il programma, a realizzare il programma. E quindi Bossi chiarisce insomma, e poi chiarisce anche che non si va al voto, non c'è alcuna intenzione di andare a voto, d'altra parte questo lo deve decidere anche qui il Parlamento, ma sentiamo Bossi. Sulle elezioni Berlusconi che cosa ha detto? Per adesso no. Il vertice di Villa Campari e ancora oggi i giornali, insomma sembra che abbia vinto Bossi sostanzialmente. Adesso però Berlusconi forse ha qualche carta in meno da giocare sullo scacchiere perché confidava probabilmente nell'ingresso di Casini nella maggioranza. Ancora oggi i giornali, leggo il titolo di Libero, la prima pagina, Casini amari perfini. Silvio vuole l'UDC nella maggioranza perché è il minore dei mali, la Lega vuole le elezioni per fare il pieno, oggi il vertice è decisivo, chiunque vinca perderà Gianfranco. Ripeto, adesso non cambia nulla, il governo va avanti così. Sicuramente a settembre ci sarà la verifica su questi 5 punti, sicuramente sul punto della giustizia i finiani avranno da ridire perché il processo breve non faceva parte del programma stilato all'inizio della legislatura e su quello si vedrà poi come andrà a finire, se il governo cadrà, i finiani avranno il coraggio di farlo cadere o se andrà avanti. Sicuramente ha perso l'UDC che sperava e credeva sicuramente di poter entrare in qualche modo nella partita politica della tenuta della maggioranza, ci credeva al punto che ancora oggi Buttiglione, Rocco Buttiglione, diceva beh, siamo noi che decidiamo se si fa o no una maggioranza alternativa. Sentiamo. Chi decide se c'è un'altra maggioranza o no? Noi. Perché a decidere se si può costituire un'altra maggioranza bisogna andare alle urne, di fatto è l'UDC. E noi useremo questa posizione di forza che la storia ci dà per favorire quella che ci sembra l'ipotesi migliore per il popolo italiano. C'è bisogno di un nuovo governo, non un governo per ammazzare Berlusconi, non un qualunque governo tecnico, un governo per affrontare i problemi del Paese, un governo forte, un governo autorevole, un governo in cui ci sia la convergenza del Popolo delle Libertà e noi spereremo anche del Partito Democratico, perché le grandi coalizioni a volte servono, non possono essere la regola, ma a volte servono. Siamo noi a decidere le sorti di una nuova maggioranza, abbiamo questa forza storica, ma dove, Buttiglione? Non sembra proprio, perché Bossi in un attimo ha detto no, non se ne parla nemmeno, si va avanti così, senza Casini, senza l'UDC. Quindi ha vinto la Lega su tutta la linea? Lo chiediamo intanto a Matteo Salvini, europarlamentare della Lega. Buonasera, buon pomeriggio. Buonasera a voi e a chi ci ascolta. Ecco, quindi è questo il risultato di questo vertice. Io ho detto un clima un po' surreale perché questa villa nuova che non conoscevamo, Villa Campari, sembravano tutte indiscrezioni queste sul possibile ingresso di Casini nel governo o comunque a sostenere la maggioranza. Salvini, ma secondo lei davvero Berlusconi ha cercato di convincere Bossi su questo? Non lo so, non c'ero, sono lontano. Non so chi abbia vinto, so che la dichiarazione che avete appena mandato in onda di Buttiglione sa tanto di minestrone, di vecchia politica, di ammucchiata, tutti al governo, PDL, PD, UDC, chi ha vinto, chi ha perso. Non so se Berlusconi aveva in mente di proporre qualcosa di simile, sicuramente qualora l'abbia fatto la risposta di Bossi deve essere stata molto veloce e molto ficcante. Perché io ho letto il titolo di Libero, i giornali, alcuni, il giornale Libero, in questi giorni c'erano editoriali di Feltri, insomma davano la cosa, io lo so che lei è uno di quelli nella Lega che era più possibilista su un dialogo quantomeno con l'UDC, anche per esempio a livello locale aveva parlato di Milano, dove tra l'altro governate già assieme. Però adesso quello che mi viene da chiederle, davvero Berlusconi è rimasto con una carta in meno da giocare, perché che abbia tentato di convincere Bossi oppure no, insomma questa sembrava la sostanza di questo vertice, Salvini. Ma mi rifiuto di pensarlo, perché la gente ha votato 2 anni fa per una coalizione, per un programma. Io ricordo che l'UDC ha votato contro tutte le principali riforme in Parlamento, contro il federalismo fiscale, contro il pacchetto sicurezza di Maroni, contro le quote latte, contro i provvedimenti sulla giustizia. Per assurdo il Partito Democratico o l'Italia dei Valori ogni tanto si sono astenuti, hanno dialogato, hanno votato qualche passaggio anche a favore. Ecco, se c'è un'opposizione becera e distruttiva è proprio quella dei democristiani, che evidentemente se non stanno al governo sentono allergie strane. E quindi penso che sarebbe stato improponibile portare al governo qualcuno che fino a ieri ha sparato contro da tutte le parti. Cioè lei dice che c'era una crisi d'astinenza da mancanza di governo. Il potere logora chi non ce l'ha, diceva il buon Giulio Andreotti. Io penso che per i democristiani fare un po' di sana di opposizione dopo di decenni di governo sia una cosa abbastanza strana. Allora, già che siamo andati un po' insulti no, ma insomma sulle criticucce anche pesanti, le faccio sentire cosa ha detto Buttiglione, credo proprio oggi, della Lega. Senta. La Lega ha fatto una brutta figura ultimamente, perché ha fatto la figura dei farisei. Dei farisei ipocriti, loro prendevano i soldi delle tangenti, poi andavano ad accusare gli altri. Non, devono smetterla con questo stile. Detto questo, noi cerchiamo il dialogo con tutti, anche con la Lega, certo. Certo, non è facile cercare il dialogo con chi si ritiene essere quello che Buttiglione ha detto di voi. Salvini, che dire? Sorrido. Fortunatamente in questi giorni chiunque in queste settimane abbia letto i giornali in spiaggia, in ufficio o in azienda ha visto che, ahimè, in affari di tangenti, di case, di appartamenti, di mutui strani ci sono dentro personaggi di più o meno tutti i partiti tranne che della Lega. Ma quindi, su questa cosa delle tangenti un po' non di so da che fonti arrivi questa notizia all'onorevole Buttiglione, o il suo orologio biologico è rimasto dietro a 20 anni fa, oppure ce la spieghi, perché veramente una sghignazzata è la miglior risposta. Ma a questo punto ripeto un po' la domanda, mi sembra di poter dire che anche se lei dice il vertice non era centrato su cos'era centrato allora il vertice, se non su convincere Bossi? Ma io penso che sul capire se ci sono i numeri per andare avanti a governare. Ecco. Io penso che a settembre si aprirà una stagione ancora difficile dal punto di vista economico e sociale, ci sono tante riforme. La prima, dal nostro punto di vista, ma non perché noi della Lega ci abbiamo il pallino o siamo monotematici, però io leggevo che ancora pochi giorni fa sul Corriere della Sera il professor Quadrio Curzio della Cattolica diceva che le tasse in Italia si potranno abbassare solo con un sistema federale in vigore. E quindi vorrei sapere se ci saranno i voti, penso che questo abbia chiesto Bossi a Berlusconi, di questo abbiano discusso, se e da dove verranno i voti sul federalismo, sulla riforma della scuola, sulla riforma delle pensioni, perché i finiani un giorno dicono sì e un giorno dicono no. Un giorno dicono tutto va bene, il giorno dopo dicono che Berlusconi è un mezzo disgraziato. Quindi bisogna capire se ci sono i numeri in Parlamento, senza fare i minestroni di cui parlava Buttiglione, ovviamente. Ma il governo, voglio dire, adesso è un po' in un vicolo cieco, perché è appeso soltanto al un vicolo cieco, lo dico io, ma insomma all'approvazione dei finiani, alla fiducia che magari verrà votata, però come mi è parso di leggere in alcuni retroscena Berlusconi tema, alla fine poi è dietro l'angolo la possibilità che ci sia sempre un voto contrario, in particolare sul capitolo della giustizia. Perché ecco, io un'altra cosa che chiedo a tutti gli esponenti della maggioranza in questi giorni, se i 5 punti famosi messi appunto qualche giorno fa erano nel programma sin dall'inizio, o se c'è stata qualche variazione? Guardi, le cose si evolvono, quindi quello che era stato scritto in un programma 3 anni fa può essere aggiornato, può essere migliorato, può essere modificato, ma non può essere stravolto. La giustizia non è in cima alle nostre priorità. Come Lega c'è il federalismo sicuramente, e anche su questo, a sentire, anche su Radio 24, io sentivo qualche gustosa, se non fosse preoccupante, intervista che avete mandato anche nei giorni scorsi a personaggi come l'onorevole Briguglio, l'onorevole Bocchino, l'onorevole Granata, che adesso però sul federalismo vediamo, valutiamo, perché non vorremmo che il nord se ne avvantaggiasse troppo, bisogna aiutare il mezzogiorno e pipim e pipam. Ecco, se ogni settimana bisogna rispiegare a questi signori quali sono i cardini del federalismo e bisogna andare in aula coi se e coi ma, il ragionamento di Umberto Bossi era questo: piuttosto che tirare a campare, fare mediazioni che non portano da nessuna parte, l'estrema razza è quella di tornare di fronte agli elettori. Salvini, mi sembra di capire che di fronte alle perplessità che io esprimevo sulla possibile tenuta a settembre del governo, insomma, l'alternativa alla Lega, il resto l'ha detto più volte, è quella del voto. Voto nel giro di qualche settimana, mese o ci vorrà più di un anno? E a questo punto, se bisogna andare a votare per evitare di tirare a campare, non entusiasma nessuno alla prospettiva del voto. Sì, beh, in quel caso io sto dicendo proprio se i fini anni tolgono l'appoggio. Ecco. A quel punto ci vai il prima possibile. Primavera. Cosa fai? Ti trascini, ma anche prima. Non puoi trascinarti per 3, 4, 5 mesi con una situazione economica come quella che abbiamo, con un governo a metà. O governi o non governi. Quindi anche prima della primavera. E quando? A novembre? Eh beh, adesso vediamo a settembre quando si voterà in Parlamento su questi benedetti punti, ma più che la fiducia sui punti, perché io penso che i cosiddetti finiani diranno sì, visto che sanno benissimo che se si va a votare almeno al nord non prendono neanche mezzo voto. Poi però bisogna vedere dalla settimana dopo, quando si torna a votare in Parlamento, se il sì diventa un ni, un no, un forse, un vediamo, un cambiamo. Parliamo un attimo anche di Milano. I recenti fatti che sono accaduti al Corvetto, questo quartiere che ogni tanto, diciamo, ritorna sulla cronaca per via di fatti spiacevoli. Pare che ci siano delle gang che mal sopportano così, diciamo, la legalità in generale, e a Milano, insomma, sembra strano che questo possa accadere. Invece accade. Lei è ancora consigliere comunale? Non ricordo. Certo. Orgogliosamente consigliere comunale di Milano. Orgogliosamente consigliere. E tra l'altro la Lega è al governo a Milano ormai da quanti anni, Salvini? Da una decina d'anni, perché con la giunta Albertini eravamo all'opposizione, quindi da una decina d'anni. Una decina d'anni con una pausa, perché prima c'era stato anche il precedente governo, sempre con la Lega. Ecco, ma una situazione come quella lì del Corvetto, per voi che cos'è? È anche una manifestazione di un insuccesso politico? Insomma, la Lega sulla sicurezza punta tutto, diciamolo chiaramente, e poi succedono cose come quelle coi vigili che non sanno come fare a ciuffare questi furfanti e rimangono addirittura incastrati in una situazione come quella. Senza che ci sia, noi abbiamo sentito anche, mi dilungo nella domanda perché è delicato, prego. Il punto, abbiamo sentito anche i vigili, abbiamo fatto un appello, ci hanno chiamato da Milano dicendo che tutto sommato, insomma, loro faticano a fare quel lavoro, e tutta la polizia, i carabinieri, i militari di cui si era parlato sul territorio, dove sono, Salvini? La sicurezza a Milano a che punto sta? No, ma io devo dire che episodi come quello di Piazzale Corvetto, che però ci sono in via Padova, ci sono in via Imbonati, ci sono a Quartogiaro, ovviamente non sono degne di una città come Milano, ma sono la reazione a una presenza sempre più massiccia delle forze dell'ordine sul territorio. I 3.000 vigili urbani, i 3.500 poliziotti, le migliaia di carabinieri, queste sono reazioni, quelle dei ragazzotti, delle baby gang, ma anche, ripeto, quelle delle gang organizzate, di clandestini piuttosto che di rom, sono reazioni a un ritorno sul territorio che negli ultimi anni non era stato così ficcante. Pensate che nei soli primi mesi del 2010 sono stati circa 300 gli appartamenti sequestrati perché affittati in nero a clandestini, che sono delle operazioni che non erano mai state fatte in precedenza. Quindi semmai c'è stato qualche ritardo o qualche chiusura d'occhi in passato, o qualche assenza in passato, devo dire che negli ultimi 2 anni si sono fatti i controlli, i sequestri, gli arresti che non erano mai stati fatti in precedenza, e questa gente reagisce in questa maniera. Bisogna ovviamente intervenire ancora più duramente, perché non è possibile che appunto un vigile urbano, ma è successo in Piazzale Corvetto, come succede ogni tanto sui mercati rionali in via Papignano, in Piazzale Lagosta. Ordinanze come quella sul coprifuoco, per esempio in quel quartiere, la confermate dopo quello che è successo oppure rivedrete qualcosa? Sì, no, più che coprifuoco, in quel quartiere si stanno verificando tutti gli affitti, ovvero sia chi vive, in quanti, in quali metrature, a chi sono intestati gli affitti, e si stanno verificando tutte le licenze dei negozi, gli orari di apertura e chiusura. Coprifuoco può andar bene giornalisticamente perché fa notizia, ma in realtà è un controllo di tutto quello che avviene da quelle parti, perché purtroppo a Milano stiamo trovando tanti casi di 10-12 persone che vivono in 30 metri quadri. Vi lascio immaginare in quali condizioni. Lei ha detto che insomma si candiderebbe anche a fare il vice sindaco insieme alla Moratti nella prossima tornata. Lo conferma oggi La Russa, però sul giornale dice no, va bene decorato. Ma guardi, i nomi e i ruoli in casa Lega sono le ultime delle preoccupazioni. Ovviamente se il sindaco sarà del PDL, il vice sindaco sarà della Lega, e viceversa, perché se sono due i partiti della coalizione in tutto il nord, laddove il sindaco è di un colore, il vice sindaco è dell'altro colore. Detto questo, un po' più di Lega, ovviamente io sono poco obiettivo e di parte, però su alcuni fronti un po' più di Lega a Milano sicuramente male non farebbe. Dall'altra parte non si fanno ancora nomi, insomma se è uscito fuori Pisapia, si parla dei soliti, lei ce l'ha un candidato per il centrosinistra, un consiglio magari? Ma io spero che ci sia un visto candidato sono di un po' sinistra, in che esista, sì. Perché i milanesi, io sfido i milanesi che ci stanno ascoltando, magari in questo momento stanno tornando in autostrada in tangenziale, a ricordarsi i nomi degli ultimi due o tre candidati sindaci della sinistra a Milano. Praticamente sconosciuti. Erano confindustriali, prefetti, intellettuali, ecco, che venga fuori un candidato di sinistra con delle idee chiare con cui confrontarsi. Detto questo, penso che, ripeto, Milano stia uscendo da qualche anno di torpore e lo possa e lo debba fare, però con delle persone con delle idee chiare. Non Senta, con ma dei secondo camuffati. Lei Pisapia è una persona seria? È uno credibile? Pisapia, per quanto abbia avuto modo di conoscerlo, mi sembra persona assolutamente seria, un galantuomo che ha il coraggio appunto di dire che da dove viene, in che cosa crede, visto che è stato parlamentare di Rifondazione Comunista. Però no, abbiamo già problemi in casa del centrodestra, come abbiamo parlato. Sì, sì. No, io ero curioso di sapere, perché siccome non si muove nulla in quel campo, se non appunto la candidatura di Pisapia, beh, che manca ancora un po' di tempo, si fanno i soliti nomi, Civati, quello, quell'altro. Spero che chiunque candidi il centrosinistra sia persona di Milano, che conosce Milano e che ama Milano, perché non c'è bisogno di gente che viene da ambienti esterni o da altri pianeti. Sarebbe già un passo avanti rispetto anche a candidature del passato, su questo personalmente sono d'accordo. Un'ultima cosa, Salvini, poi la lasciamo, abbiamo abusato abbastanza anche del suo tempo. È un piacere. E poi è d'estate, insomma, per cui sarà magari in giro a godersi le vacanze da qualche parte. Così? Sto facendo la mia settimana di vacanza estiva, effettivamente. Ecco. E allora, insomma, non andiamo oltre perché non la vorrei rovinare. E c'è una questione che non la riguarda direttamente, ma che le voglio porre, la vicenda Fiat, perché insomma la Lega in passato non è stata tenera con gli aiuti di Stato e lo sappiamo. Adesso c'è questa vicenda dei tre operai che secondo me tra l'altro ingiustamente si concentra l'attenzione su questo scontro tra Fiat e questi tre operai. La questione Fiat va molto al di là, c'è un piano di investimenti importante che riguarda l'Italia, c'è un problema di competitività internazionale, forse ci sarebbe bisogno magari di un intervento del governo. Io ho detto l'assenza del ministro dello sviluppo, che è all'interim Berlusconi, in questo momento è quanto mai negativa. Però lei su questa vicenda come la vede? Come si è mossa la Fiat? Ma guardi, sì, non abbiamo mai lesinato critiche alla Fiat, perché con tutti i soldi pubblici che sono arrivati nelle casse di Casa Agnelli adesso sarebbe un'azienda pubblica più che un'azienda privata. Però detto questo e superato il passato, devo dire che ultimamente alcune mosse paiono andare nella direzione giusta. Bisogna rivedere e ridiscutere dell'apertura degli stabilimenti in Serbia o altrove, piuttosto che che a Torino, però di questo abbiamo già discusso e su questo penso che si sia trovato l'accordo. Che ci sia un sindacato fermo a 50 anni fa, che è la CGIL, che più che difendere i lavoratori attuali e i lavoratori futuri, difende alcune sue prese di posizione e alcune situazioni che non sono più al passo coi tempi, se io devo dirla, non mi ha stupito il comportamento della dirigenza Fiat, anzi mi è venuto un finalmente. Sarà stato politicamente scorretto, sarà stato quello che volete voi, però farsi imporre tempi, azioni e investimenti da un sindacato come la CGIL, che ripeto... ma c'è di mezzo anche la sentenza però, perché io capisco le critiche al sindacato, sì, ma sì, qui c'è sì, di mezzo sì. anche la sentenza, è vero che ieri Napolitano si è un po' sbilanciato. Sì, però io datore di lavoro, io anche proprietario di piccola o media impresa senza essere il signor Fiat, se io ho dei dipendenti che remano contro la mia piccola impresa, il mio ristorante o la mia azienda meccanica, io magari li pago, però non li faccio venire in azienda se lavorano contro l'azienda. Chiaro, grazie. Allora buona serata e buone vacanze a Matteo grazie Salvini. Grazie a voi. 18:28, abbiamo il tempo almeno per un ascoltatore. Pippo da Bari, 824 0024, buonasera. Pippo ci sente? Pippo non ci sente. E allora andiamo con Salvatore che chiama da Brescia, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io che avevo chiamato ieri in merito all'intervento dell'onorevole Santanchè a riguardo delle donne del PDL più belle o questa attenzione, e volevo soltanto far notare che l'interpretazione che ha dato lei e ha dato il primo ascoltatore che era intervenuto sulla frase modello, mi sfugge il nome dell'onorevole Bindi. Dell'onorevole Bindi, sì. Non era, secondo me, io non l'ho visto come un'offesa, anzi era una difesa di un pregiudizio che si ha sulle donne belle, e ha dato come alternativa, come viene vista da tutti, cioè una donna non piacevole, però intelligente. Ma il punto è che se la bellezza o la bruttezza diventa accusa, diventa critica e poi accusa, spostando l'attenzione da quello che si dice al come si è, questa è la scorrettezza. Io poi ho più volte chiesto a Santanchè di correggere, ma lei andava dritta per la sua strada. Lo so. Secondo me le due cose non sono in antitesi. Secondo me non è nella bellezza, nella bruttezza che fa l'attenzione, è il fatto di essere partiti dal presupposto. Ma è stata lei però, scusi, ma è stata Santanchè a dire che bisogna finirla con il modello Bindi? No, lei ha detto che bisogna finirla con il modello delle donne belle e poco intelligenti. Ma che c'entra la Bindi? Ha parlato del modello Bindi, che come è il contrario, il modello forse. Che era quando lei è entrata in Parlamento. Sì. Probabilmente il fatto di intervenire sul modello Bindi, avrebbe potuto parlare di un modello di una donna un po' dimessa, sarebbe stata la stessa cosa, ma il concetto che voleva esprimere non è, io non la penso come l'onorevole Santanchè. Sì. Però a me non è sembrato un'offesa. Va bene, va bene, è chiaro. Una precisazione sull'intervento. Tra l'altro, più avanti ci torniamo, perché questo è un dibattito, le donne dentro il PDL, che sta animando anche i forum, i blog. Basta leggere quello che viene scritto sul Secolo d'Italia, per esempio, e ne parleremo con la direttrice Perina, che è anche una finiana, perché si sta muovendo davvero la pancia qui dell'elettorato di centrodestra. 824 0024, tra poco riprendiamo con i vostri interventi, prima titoli del TG2. Il vertice sul Lago Maggiore tra Berlusconi e Bossi. Il leader della Lega annuncia: per adesso niente elezioni, andremo avanti così, senza casini. Soddisfatti i finiani, non possono sostituirci. Il caso degli operai Fiat di Melfi. Monsignor Bregantini della CEI definisce nobilissimo e incisivo l'intervento del presidente Napolitano. Per Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, la Fiat in linea con la legge. Nel sud-est della Sardegna una donna muore per shock anafilattico. La vittima si è accasciata appena dopo la puntura di una medusa, ma si indaga anche su altre possibili cause. Li chiamano la band di Obama, sono il Suspicious Package, pacco sospetto, gruppo rock composto da funzionari della Casa Bianca e giornalisti. Fra loro c'è anche un premio Pulitzer, in Italia, l'unica tappa europea del loro tour. Così dunque TG2 adesso, studio aperto. Per adesso niente voto, si va avanti così. È questa la sintesi di Bossi all'uscita dal vertice con Silvio Berlusconi sul Lago Maggiore. La maggioranza riparte dal programma in 5 punti proposto dal Premier senza allargamenti all'UDC. Aveva assunto cocaina l'uomo che con il suo gommone ha travolto e ucciso un giovane sub nelle acque di fronte a Posillipo. Il conducente del natante, risultato positivo al test antidroga, ora è indagato per omicidio colposo. È morta per shock anafilattico dopo essere stata toccata dai tentacoli di una medusa. La tragedia nel Cagliaritano. L'anziana stava nuotando quando è stata ustionata dal liquido urticante. Il suo cuore si è fermato prima dell'arrivo dei soccorsi. Centro-sud nella morsa del caldo. A Roma e Messina la temperatura percepita sfiora i 40 gradi. A Bari tasso d'umidità record 90% e l'afa non darà tregua anche nei prossimi giorni, continuando a colpire da Firenze in giù. 5 anni con una pallottola in testa senza saperlo. Incredibile disavventura di un 35enne in Germania. Colpito da una calibro 22 a una festa, era troppo ubriaco per accorgersene. Solo ora una radiografia ha svelato il mistero delle ricorrenti emicranie. Un tempo preferivano le bionde, ora per gli uomini è il tempo delle more. Da Miss Universo a Miss America, da Eli Canalis a Dita Von Teese, le brunette sono le più amate da maschi, registi e cacciatori di testimonial. Non so dove le prendano queste notizie. Oggi c'era una pagina, credo anche sulla Stampa, di Carlo Rossella sul tramonto delle bionde in favore delle more. Saranno felici le italiane, però chissà da dove questi sondaggi, questi cambiamenti d'umore. Vabbè. 18:35, ascoltatori, andiamo con Alessandro che ci chiama da Livorno. Buonasera. Buonasera a lei. Prego. Io volevo fare una considerazione appunto sull'ultima parte della visione, quindi sul ruolo delle donne nel, diciamo, nel centrodestra, riferendo appunto all'articolo di stamani mattina sul Secolo d'Italia. Cioè, io rimango veramente sbalordito di come le donne del centrodestra stiano permettendo questa lapidazione democratica, se così si può chiamare, della Tugliani. Voglio dire, chi si mette contro il capo, no, viene poi lapidato, appunto, con i gossip, con le notizie. Quindi era una considerazione, appunto, solo la Fivetti mi sembra si sia abbia difeso il ruolo, la Tugliani, appunto, il rispetto, il ruolo della donna, ecco, del centrodestra. Sì, quello che la Perina dice, che tra un po' sentiremo, è che si attacca la donna in quanto oggetto, non in quanto soggetto attivo, perché poi la vicenda Tugliani riguarda il fratello, però lei naturalmente è il tratto di unione, insomma, è il trait d'union con Fini. Però lei dice, sì, ancora una volta la donna è oggetto perché per colpire Fini si colpisce lei, negando la sua identità, la sua personalità. Poi aggiunge molte altre cose che riguardano il ruolo delle donne nel centrodestra, ma non anticipo nulla perché sennò casa la chiamiamo a fare poi la Perina, se riusciamo a sentirla tra una decina di minuti. D'altra parte poi glielo chiederemo, ma insomma sembra anche un po' una difesa d'ufficio, perché non dimentichiamo che lei è direttrice del Secolo d'Italia, il giornale dell'area di Alleanza Nazionale. Franco da Alessandria, buonasera. Buonasera. Prego. Ma io telefono in merito alla questione di Tor Bella Monaca. Sì. Perché 3 giorni fa il sindaco Alemanno dice che non ha una lira. Allora, un'operazione del genere, fatte salvo tutte le considerazioni urbanistiche, architettoniche, eccetera, eccetera, non è un'operazione a costo zero. Quindi se 2 giorni fa non aveva una lira, oltretutto. Poi ho letto su un sito, su internet, va verificata la cosa perché su internet gira di tutto, che il Vaticano è debitore di una cifra che non mi ricordo se 10 o 20 milioni di euro per fornitura di acqua non pagata. A Roma? A Roma. Invece di inventarsi le tasse sul Cortei, eccetera, eccetera, andasse a riscuotere questi soldi. Cosa ne pensa? Penso che se è vero quello che lei dice, sicuramente ha un senso, è ragionevole. D'altra parte lei sa che non soltanto il centrodestra ma anche il centrosinistra. In Italia c'è questa specie di paura ad avvicinarsi, a chiedere, ad esigere dal Vaticano. Io poi non so quale fosse la convenzione, l'accordo. Sono state fatte delle inchieste sui regimi fiscali che favoriscono la Chiesa, eccetera, eccetera. Sicuramente è un argomento, uno dei tanti, che rientra forse nel capitolo sprechi e possibili entrate a fronte di... Però scusi, lei è ancora in linea? Ce l'abbiamo ancora? Sì, sì, sì. Sulla cosa però di Tor Bella Monaca, a prescindere dal fatto che il Comune abbia o non abbia i soldi per farlo, mettiamo che abbia i soldi per farlo, no? Perché noi abbiamo provato anche a prenderla sul serio la proposta di Alemanno. Lei è di Roma? No. No, io sono di Alessandria. Ah, sì, sì, lei è l'ascoltatore di Alessandria. Allora, agli amici di Roma, sì. Posso fare un esempio di Alessandria? Ecco, ce lo faccia, così parliamo anche un po' in concreto. Il sindaco è andato su, ci ha buttato giù un ponte, perché il nuovo ponte sarà più bello e più grande di prima. Per adesso siamo senza ponte e non ci sono i soldi. Lei dice prima buttano giù e poi non hanno i soldi per ricostruire. Soldi. Sì, questa sarebbe ma una disdetta. Se fosse adesso non avrebbe neanche i soldi da buttarlo giù. Però mi scusi, ma allora il sindaco è stato uno sprovveduto? No, no, no, lui ha documentato. Cosa? Cioè, guardi, è carinissimo da vedere. Se va a cercare su YouTube, è venuto Sgarbi in Alessandria. Vabbè, allora se è venuto Sgarbi siamo a posto. Quando arriva Sgarbi, che cosa ha detto Sgarbi? Insomma, che il ponte potevano lasciarlo in piedi. Vabbè, io non so, non conosco questa vicenda. Lei mi sta parlando di un sindaco che butta giù il ponte, non lo ricostruisce e poi è arrivato Sgarbi. Mi sembra un po' confusa questa storia. Comunque ci documentiamo, magari proviamo a raccontarla, perché di casi di questo tipo ce ne sono. Noi abbiamo scoperto, abbiamo parlato del caso di Lucca, ma ci sono tante altre città dove si sono fatte operazioni del genere. E questo è l'importante, insomma, che si muova, no? Anche dal punto di vista urbanistico le città italiane. Anche questo è un tema. Va bene, grazie. Grazie a lei. A dove andiamo? Al prossimo ascoltatore, che è Alessandro, che ci chiama stavolta sì da Lazio, da Frosinone. Buonasera. Sì, buonasera. Sì, in questo momento mi trovo a Roma col camion. Niente, volevo appunto a Tor Bella Monaca, no? Come? No, dico dalle parti di Tor Bella Monaca, no. No, no, no, no, Pomezia. Ah, va bene. Sì, Pomezia. Senta, volevo appunto commentare l'attuale situazione politica, veramente molto, sono dei toni molto bassi, no? Quella c'è Tacchiaspillo, quella è bella, quella è Rosibindi, quella è brutta, quell'altro è stronzo, quell'altro non so che. Insomma, tutti questi termini, queste parole, queste volgarità, non solo a livello di parole, ma anche proprio a livello giornalistico che stanno succedendo. Ecco, si è perso un po' il tono della vera politica, quella che caratterizzava un po' la Prima Repubblica, no? Lì si faceva veramente politica, anche i giornali si interessavano molto, molto più sui partiti, sulla politica, che non sulle persone, sulla vita privata, su quello che loro facevano. E, nessun giornale, per esempio, spiega, tanto quelli di destra quanto quelli di sinistra, e questo è il mio parere, il motivo per il quale Berlusconi ha offerto al suo nemico, ex comunista D'Alema, la prima volta, il fatto di essere ministro degli esteri di oltre mezzo miliardo di europei. Poi, siccome i socialisti europei si sono messi contro, allora l'ha riproposto come, diciamo, capo del COPASIR. Nessuno ha voluto rispondere il motivo perché Berlusconi ha fatto una proposta a lui, ad D'Alema, e neanche i membri del PD vogliono rispondere o vogliono indagare perché è successo questo. Quindi invece di soffermarsi sui mobili di Fini, sulla cucina Scavolini, sui tacchi a spillo della Santanchè, bisogna vedere queste cose, cioè bisogna dare delle risposte agli italiani su questo motivo, perché all'arcinemico ex comunista è stato proposto questo. Nessuno vuole rispondere, nessuno... Va bene, grazie anche a lei per il suo intervento, però insomma adesso... Dove ci porta? Non lo so, non ho capito benissimo. Io invece vorrei salutare proprio Flavia Perina, buonasera, direttrice buonasera del Secolo voi. D'Italia. Perché io ho detto poco fa, e tra poco la risentiremo anche l'onorevole Santanchè, che è stata qua con noi ieri sera, ha fatto arrabbiare anche molti ascoltatori, Però io ho detto, per capire quello che si sta agitando un po' nel centrodestra, non sarebbe male fare un salto sul blog o comunque sui commenti agli articoli che ci sono proprio sul Secolo d'Italia, in particolare il suo, Letta alle donne del PDL, non vi sentite a disagio, una serie di commenti le danno ragione perché lei ha parlato di linciaggio nei confronti della Tugliani, del ruolo delle donne nel PDL e via discorrendo. Veramente si capiscono un po' di cose, secondo me, guardando a questo tipo di scambi, insomma, che ci sono in questo caso tra le donne del PDL, ma insomma riguarda proprio anche proprio queste due anime del centrodestra. La prima cosa che mi viene a chiederle è ci avete messo un po' a rendervi conto di questo, perché d'altra parte era sotto gli occhi di tutti che insomma queste fossero le priorità di quel tipo di centrodestra, il cavaliere che ha puntato su quello, e fra l'altro il risultato elettorale gli ha sempre dato ragione. No, noi sinceramente avevamo fino a 2 anni fa un nostro partito autonomo, un'alleanza con Berlusconi e l'idea che bisognasse incardinare in Italia un bipolarismo vero di modello europeo che prevedesse l'alternanza tra due poli avversari ma non nemici, e abbiamo lavorato per questo immaginando che nel nuovo contenitore del PDL ci potesse essere spazio per una battaglia di idee anche da posizione di minoranza. È stata un'illusione, io lo dico con franchezza, e su questo tutti noi dobbiamo affrontare diciamo il tema dell'autocritica. Sinceramente nessuno si aspettava che la sola esposizione di idee, spunti critici difformi dall'opinione corrente del partito su argomenti come dalla bioetica all'integrazione degli immigrati potesse suscitare alzate di scudi così rilevante, fino alla sostanziale espulsione di Fini e di chi condivideva le sue posizioni dal partito. Questo per quanto riguarda proprio la questione dell'alleanza tra Fini e Berlusconi. Però adesso facciamo una pausa per il traffico, però le voglio chiedere proprio il punto sulla questione delle donne, perché a me davvero pare che fosse già lampante da molti punti di vista che quella fosse la visione, fra l'altro insomma ieri la Santanchè l'ha difesa, e a modo suo l'ha difesa anche bene, superare il modello delle donne belle ma non intelligenti, e però adesso qui sta scoppiando un bubone, mi sembra. E allora, come detto, risentiamo Perina per lanciare anche questo argomento, alcune delle affermazioni fatte ieri dalla Santanchè. Il dibattito l'aveva lanciato Barbara Contini nel PDL della politica, si fa coi tacchi a spillo e le minigonne, aveva detto, e la Santanchè ha risposto, i tacchi a spillo logora chi non ce l'hanno, sentiamola. I tacchi a spillo logorano chi non ce li ha. Non è un merito, è una fortuna nascere piacevoli, più o meno belle, più o meno interessanti. E detto questo, si va avanti. Ciò che io ho sempre detestato è l'omologazione. Non mi sono omologata a quello che è un pensiero unico della sinistra, che il concetto che era quando noi eravamo piccoli nelle fiabe del bello scemo lo vogliono ancora fare convivere e vivere nel terzo millennio. Poi però a proposito della Contini sembrava quasi dire, ma sostanzialmente l'ha detto, è invidiosa, no? Perché poi la frase di tacchi a spillo logora che non ce li ha è quello. E questo è quello che ha detto sulla Contini, sentiamo. La Barbara Contini è quello che si vede, voglio dire, non c'è, è stata, ma a me non interessa l'aspetto estetico, io ce l'ho con chi vive male il proprio aspetto estetico, perché vede, ci sono donne che sono brutte e che vivono bene la loro bruttezza perché possono essere erotiche, possono essere sensuali e non ce l'hanno col mondo. E se uno si guarda la mattina e si vede un mostro e si vede un cesso, è soltanto a voglia, voglio dire, di rivendicazioni, a voglia di cattiverie. Perina, che dice? Ma dico che appunto la Santanchè, che è un po' scudo umano del Premier in questa fase e anche nelle precedenti, ha abilmente modificato completamente quello che era il discorso della Contini, che non aveva aveva usato la metafora dei tacchi a spillo, ma per dire tutt'altro, per dire il fatto che all'interno del PDL donne capaci, donne che avevano insomma anche un portato di esperienza importante, nel momento in cui entravano in dissenso per qualsiasi motivo o non si comportavano comportavano con lo spirito delle fedelissime non venivano, non sono valorizzate. La Contini è una di quelle, perché quando è entrata in politica, la Contini è una di quelle, sembrava l'asso nella manica, governatrice poi... di Nassiria, sì. in una situazione esplosiva, è stata una delle adesioni più prestigiose secondo me alle liste del PDL, uno dei colpi in qualche modo. Poi è sparita un po', no? Dopodiché è completamente sparita, abbiamo assistito alla promozione di tante colleghe che magari avevano un curriculum meno prestigioso del suo, però avevano una minore indipendenza, a mio giudizio, voglio usare un eufemismo, una minore indipendenza intellettuale, forse anche caratteri più plasmabili di quello di Barbara Contini, che sicuramente è una donna forte e che fa rispettare le sue opinioni. Tanto è vero, il vero punto di questo dibattito non sono i tacchi a spillo e l'aspetto estetico, di cui non frega assolutamente più niente a nessuno. Oggi le donne sono tutte in qualche modo belle, curate e a prescindere, certo più giovani, magari più grandi, ma insomma non si sta parlando di moda, di passerelle, di estetica, di tacchi o di borse. Si sta parlando del fatto se è possibile all'interno del PDL per le donne uscire dallo stereotipo della velina che dice sempre di sì ed essere comunque rispettate. Io ho visto una donna in gamba come Chiara Moroni, che ha preso posizioni in dissenso dalla maggioranza, letteralmente latitata dai giornali. Fino al giorno prima era così brava che poteva fare la tesoriera del gruppo del PDL alla Camera. Il giorno dopo essersi schierata con il gruppo di Fini è stata lapidata sui giornali, e lo stesso è successo a Barbara Contini. Senta, ma chi sono invece le donne che fanno politica nel PDL e che forse queste sì, come dice la Santanchè, sono belle ma non intelligenti? Ci sono? No, io non voglio fare assolutamente, io non do giudizi di questo tipo e trovo assolutamente sbagliato chi dà. Ecco, a me non piacciono ad esempio manifestazioni come quelle che abbiamo visto in fine estate, ma per quale motivo non lo so, dovrebbero essere organizzate feste delle donne parlamentari del PDL per il presidente del Consiglio? Si riferisce a quel raduno, quella cena, alle famose, alle due feste al castello che hanno riunito delle parlamentari del PDL, ma per quale motivo le donne, cioè nel momento in cui si fa una festa che implica una categoria politica, perché si parla di parlamentari, perché solo le donne o solo gli uomini? Tutto questo francamente mi sembra una cosa, diciamo, poco normale. Poco ma perché normale. Secondo lei è stato fatto quel vertice di sole donne per tirare sul morale a Berlusconi? Non questo non è quello che scrivono i giornali. Io non credo che il ruolo delle donne dentro un partito sia quello di tirare sul morale a nessuno. Credo che il ruolo sia un ruolo politico, di portare il proprio portato di esperienza, di idee e all'interno del partito, di lavorare per progetti comuni, non di tirare sul morale a nessuno. Ecco, questo a me non piace, e tra l'altro credo che proprio una categoria nella politica italiana, io non ho mai visto affermazioni di questo tipo. Senta Perina, a questo punto, visto che oggi c'è stato questo vertice, noi ci abbiamo scherzato, il vertice, l'ora del Campari, in questo clima un po' surreale a Villa Campari, perché sembravano tutte indiscrezioni, poi invece evidentemente si è parlato proprio di questo, cioè della possibile estensione della maggioranza a Casini, progetto fallito, adesso si va alla verifica a settembre. Mi sembra che il Campari c'è stato, ma il pranzo diciamo in qualche modo, ma un aperitivo, il Campari, il pranzo al momento è rinviato, se questo era l'obiettivo, quello di sostituire pezzi di maggioranza. Sì. Bocchino ha detto, il capo dei Finiani in qualche modo, ha detto bene, si va avanti così, il governo è lo stesso, non ci sono problemi per la maggioranza, cambia solo che c'è il PDL, c'è la Lega e ci siamo anche noi di Futura Libertà. A settembre nasce questo benedetto partito, avrà la forma di un partito? Ma il partito è una scelta, a mio giudizio personale, in questo momento prematura. Bisognerà aspettare ad esempio un appuntamento importante sempre di settembre, che è il 18, il 19 mi sembra, e cioè questa convocazione dei provvediri del PDL, che è stata fatta prima dell'estate, per processare in qualche modo i tre esponenti del PDL finiti nella blacklist dei berlusconiani. Ma adesso che senso ha se la cosa è superata, nel senso che c'è un altro gruppo, c'è ancora quel passaggio, cioè lei dice noi siamo un gruppo parlamentare ma restiamo del PDL, restiamo all'interno del PDL, poi certo se il PDL fa un pubblico processo alle idee e spelle tre di noi ci si regolerà di conseguenza. Io credo che questo appuntamento dovrebbe essere in questo contesto di apparente rasserenamento quantomeno sospeso, insomma. Senta, ieri Famiglia Cristiana ha fatto quell'articolo e la risposta è stata molto dura. Lei l'ha letto l'articolo di Beppe Del Colle? Sì, l'ho letto, sì, non ci facciamo mancare niente, perché adesso aprire fronti polemici anche insomma con, a questo livello, poi, perché sai, cioè, parlare di pornografia in relazione ad un comunque... A me ha colpito questa espressione, sì, mi è sembrata proprio fuori luogo l'espressione pornografia. Sì, ma deve essere una specie di fissazione anche questa, perché la parola proprio pornografia non si vede in quale modo qualcosa si addica a questo tipo di valutazioni. Comunque insomma mi sembra che aprire, dopo aver aperto fronti polemici a livello istituzionale, non ci siamo fatti mancare niente, appunto, dalla presidenza della Camera al Quirinale è stata guerriglia continua per tutto luglio e agosto. Adesso se ne apre anche uno con l'area dei cattolici, che è giustamente rimasta interdetta dopo quello che era a suo tempo successo con la... Ma secondo lei Famiglia Cristiana è ancora un giornale che esprime la posizione in qualche modo dei cattolici a tutto tondo, oppure, come ha detto qualcuno ieri, sembra più l'Unità, sembra il Fatto di Travaglio, eccetera eccetera? Sì, no, oggi c'è una vignetta molto divertente sull'Unità con Bobbo che va all'edicola e dice all'edicolante: mi dia il solito, l'Unità, il Secolo d'Italia e Famiglia Cristiana. Ecco, questo è un po' lo stereotipo, ha ripreso bene insomma in modo ironico questa sorta di stereotipo di criminalizzazione che viene fatto nei confronti di chi esprime un'opinione in dissenso, per cui Fini è diventato a suo tempo il compagno Fini, poi è tornato a essere il fascista Fini, Famiglia Cristiana è pornografica, diciamo c'è una sorta di strategia dell'invettiva dove si mischiano le categorie, ma anche secondo me non ha proprio un senso politico, è soltanto criminalizzazione delle opinioni. Cioè quando viene fuori un'opinione diversa, invece che rispondere all'opinione si dice appunto comunista, fascista, non sei più cattolico, fai pornografia. È questa anche una cosa che distingue i Finiani dal resto del PDL, secondo lei? Sì, secondo me, diciamo, noi abbiamo cercato di sviluppare all'interno del partito, ma apertamente, fin dal congresso fondativo, era un progetto apertamente declinato anche al congresso di fondazione, dove io ricordo l'intervento di Gianfranco Fini fu molto applaudito, l'idea di un partito che discutesse al suo interno. Ma dico anche nel rapporto con gli avversari, no? Non ci siamo mai piegati, anche in questa, veramente in questa estate di veleni, insomma, la tattica dell'insulto, non dell'insulto reazione a suon di invettive, sinceramente non ci appartiene, preferiamo lasciar correre, vogliamo parlare di politica nel partito, non ci possiamo confrontare appunto a suon di parolacce come di fatto sta succedendo in questi giorni. E allora grazie Flavia Perina, buona serata, per essere grazie stata con noi. Grazie a voi, arrivederci. La Zanzara. 19:14 minuti, 824 0024, gentili ascoltatori ben ritrovati, 3492386666, la Zanzara è radio24.it, prenotate i vostri interventi, tra poco riprenderemo a sentirvi, prima però i titoli TG3. Il vertice di Berlusconi con la Lega e Tremonti. Bossi, no ad aperture a Casini e per ora no al voto anticipato. Bocchino, bene Bossi, velleitario sostituirci con l'UDC. Cesa, mai interessati a quel tavolo. Il PD, teatrino della vecchia politica. A Melfi il clima più sereno, i 3 licenziati rimangono davanti ai cancelli. Emma Marcegaglia, le scelte della Fiat sono in linea con la legge. I vescovi con Napolitano, intervento nobile e rapido, violata la dignità del lavoro. Bersani, ora l'azienda sia disponibile a soluzione. Un paese nelle mani del racket, è l'allarme del sindaco di Niscemi alle porte di Gela, dove molti pagano il pizzo ma nessuno denuncia. Il sindaco di Spresiano scava una nuova trincea per impedire l'accesso alle rive del Piave, scenario di incontri sessuali notturni. E mezzo secolo fa l'Olimpiade di Roma, un evento che ha segnato la storia d'Italia uscita dal tunnel del dopoguerra in pieno boom economico. Avete sentito il titolo del TG3, incontri sessuali a Spresiano, il sindaco ha lanciato una nuova iniziativa, ma io mi domando che succede in Veneto, in provincia di Treviso, c'è un sacco di incontri sessuali, succede tutto lì e quindi ogni tanto si ritorna con delle iniziative nuove dei sindaci, stavolta un fossato per impedire il passaggio dalla macchina alla strada eccetera, ma più avanti proveremo anche a parlare col sindaco. Titoli Sky TG24. Tre operai 6 morti vicino a Barletta sarebbero caduti in una cisterna. Vertice Bossi, Berlusconi escluso il voto, maggioranza avanti senza l'UDC. Soddisfatto Bocchino, sostituire Fine con Casini dice tradirebbe gli elettori. Immigrazione, Maroni replica l'Unione Europea, noi seguiamo le direttive. Fiat Lacei al fianco di Napolitano sul caso Melfi, i diritti non vanno negati. Muore dopo essere stata sfiorata da una medusa giallo nel Cagliaritano. Pakistan in ginocchio per le alluvioni, ressa e scontri per avere gli aiuti. Educare a suon di sberle da scandalo la pagina Facebook dei genitori Maneschi. Milan a Barcellona per il torneo Gamper, ma il trofeo più ambito è Ibrahimovic. Il re del pop diventa un gioco, il videogame su Giacomo in vendita da novembre. Se da panni e di malanni non si sente più novella, se ciascun sorride lieto e la vita trova bella, se ragione misteriosa a gioir ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari. C'è stato l'aperitivo a Villa Campari, l'incontro tra Bossi, Berlusconi e altri esponenti del PDL e della Lega, ma non c'è stata forse il tempo di fare la cena, come suggeriva anche poco fa Flavia Perina, direttrice del Secolo d'Italia, perché il vertice non è durato moltissimo. Ha sancito lo stop all'ingresso dell'UDC nella maggioranza in qualsiasi forma e maniera. Il titolo, secondo me, l'ha dato oggi benissimo Lorenzo Cesa dell'UDC, ha detto: è calato il sipario sul teatrino della politica d'agosto. Sì, se non fosse che era stato proprio l'UDC a rinfocolare questa questione dell'ingresso, del sostegno al cambio di maggioranza, il cambio di passo, eccetera, eccetera. Per la Lega il punto è che si va avanti così, ma bisogna stare attenti perché vogliono far fuori Berlusconi, così ha detto oggi anche Maroni. Io non sono affatto certo che si riesca a ricomporre la situazione, anzi credo che ci sia un'operazione in corso per far fuori Berlusconi e dobbiamo capire come muoverci. Noi, la Lega, la sua indicazione l'ha già data. Se non c'è una maggioranza che venga certificata, si deve andare subito a nuove elezioni. Questa è la posizione della Lega. Per quanto riguarda il rapporto con l'UDC, Bossi ha parlato chiaro, mi pare. Oggi più che mai sembra proprio che la linea la dia la Lega. Ancora oggi titoli dei giornali, Libero per esempio: Silvio vuole l'UDC nella maggioranza. Gli editoriali dei giorni scorsi di Feltri, che davano per fatto l'ingresso di Casini nella maggioranza, invece passa la linea di Bossi, niente. Niente affatto. L'UDC è secondo me la vera sconfitta di questa situazione, perché pensavano di poter tornare a contare sul tavolo della politica, invece restano all'opposizione, anche se fino a poco tempo prima erano davvero convinti di avere in mano carte da giocare. Questo è Rocco Buttiglione prima del vertice dell'aperitivo di Villa Campari. Chi decide se c'è un'altra maggioranza o no? Noi, perché a decidere se si può costituire un'altra maggioranza bisogna andare alle urne. Di fatto è l'UDC e noi useremo questa posizione di forza che la storia ci dà per favorire quella che ci sembra l'ipotesi migliore per il popolo italiano. Ma dove, Buttiglione? Abbiamo noi la forza in mano per dire quale sarà il prossimo governo, la prossima maggioranza? Ma dove? Non mi sembra proprio. È bastato 2 ore appunto a Bossi per convincere Berlusconi che non sa da fare, Vorrei leggere qualche passaggio della famosa editoriale editoriale di Beppe Del Colle su Famiglia Cristiana, che ha ieri riscatenato il dibattito. Dice così, attacca, e questo è il punto più delicato: Berlusconi ha detto chiaro e tondo che nel cammino verso le elezioni anticipate, qualora il piano dei 5 punti non riceva rapidamente la fiducia del Parlamento, non si farà incantare da nessuno, tantomeno da formalismi costituzionali. Così lo sappiamo dalla sua viva voce: in Italia comanda solo lui, grazie alla sovranità popolare che finora lo ha votato. E questo è il punto che ha scatenato le reazioni nel centrodestra. Si è parlato di pornografia politica per questo editoriale. Secondo me non c'entra proprio nulla. Uno può dire che non è vero che Berlusconi se ne infischia della Costituzione, ma non mi sembra centrata la cosa. Già che sentiamo Buttiglione, lui che è un cattolico e se ne intende di queste cose, sentiamo come ha commentato l'editoriale di Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana ha ragione, Berlusconi ha diviso l'elettorato cattolico, ha diviso il mondo cattolico, però la colpa non è solo di Berlusconi, è di tanti altri, anche mia, io mi prendo la mia parte di responsabilità. Io però da anni sto lavorando a riunire, a ricostruire un'unità. Riunire i cattolici, naturalmente. Così invece Lupi, sempre su questo editoriale di Beppe Del Colle, sul settimanale dei Paolini. Mi sembra invece che Famiglia Cristiana abbia deciso di essere il fatto, l'unità, quasi il portavoce, l'inserto, il supplemento del fatto dell'unità. Famiglia Cristiana come il fatto, come l'unità. Abbiamo parlato sia ieri che stasera della questione donne, il ruolo delle donne in politica che agita un po' il PDL. Io ho detto basta dare un'occhiata al sito del Secolo d'Italia, le risposte all'articolo di Flavia Perina che chiama le donne del centrodestra a mobilitarsi, non vi sentite a disagio per come veniamo trattate, eccetera eccetera, il tema lo conosciamo. Ieri sera avevamo parlato con la Santanchè, che a proposito, insomma, lei ha difeso su tutta la linea il modello donne belle ma intelligenti, però su Rosy Bindi la pensa così. Quando si riesce, voglio dire, a trovare delle donne piacevoli che abbiano poi anche l'intelligenza, la passione, il credo politico, diciamo, non è più un ostacolo, ecco, non dobbiamo più essere modello Rosy Bindi per fare politica. Devo dire che c'è stato uno sdoganamento. E ancora sentiamo un altro passaggio, perché poi ha scatenato molti interventi, ascoltatori che si sono presa con la Santanchè per queste parole. Ancora sulla Bindi, io ho cercato di farla, non dico ragionare, ma insomma di portarla su un altro terreno, ma non c'è stato versi, sentiamo. Ma sulla Bindi cosa vuole che le dica? Non è che le posso dire che è bella la Bindi, è una donna che io stimo, che ha grande passione politica e poi che non è bella è un dato oggettivo. Vabbè. Altro tema, l'avevamo sentito ai titoli del TG3, Spresiano, tra poco ne parliamo. Che succede? Sentiamo questo servizio riepilogativo della storia del fossato in provincia di Treviso. Eccola la trincea antisesso, 30 metri di fossato per impedire gli incontri a luci rosse sulle rive del fiume Piave. Succede a Spresiano, provincia di Treviso. Misure drastiche, fortemente volute dal sindaco del paese, Riccardo Misiato, lo vediamo già al centro delle cronache lo scorso luglio, per aver definito i gay che si appartano sulle sponde del fiume come persone malate. Io non ce l'ho su con i gay, voglio che questo sia un messaggio chiaro, ce l'ho contro questi atti osceni, queste forme di... Va bene, lo sentiremo anche noi, credo, il sindaco di Spresiano. Tra l'altro quella cosa sui gay malati in realtà l'aveva ritrattata, aveva detto sono malati se devono, come dire, esternare le loro pulsioni ovunque, sempre e comunque. Ma insomma è un sindaco attivo su questo fronte. Io mi sono domandato, ma che c'è in Veneto di tanto particolare che tutte le volte su questa questione degli incontri sessuali notturni, tra l'altro poi altra questione, si cerca sempre di mandarli fuori dalle città, dai centri abitati, queste scene di degrado, adesso che, se non ho capito male, lì siamo in uno scenario extraurbano, si va a intervenire comunque, ma ne parleremo più avanti. Adesso 800 24 00 24, abbiamo molti ascoltatori in linea già da un po'. Salvatore da Palermo, buonasera. Buonasera. Sono in linea? Sì, prego. Ah, bene. Il mio intervento forse non c'entra molto, perché è un intervento sul lungo periodo. Beh, io credo che l'era berlusconiana sia prossima alla sua fine. Nel bene e nel male, diciamo, è stata... Quanto lungo questo lungo periodo? Cioè, lei parla nelle settimane, nei mesi, o si riferisce, diciamo, al secolo? Mi riferisco nell'arco di un paio d'anni, diciamo, sì. Beh, insomma, allora... lunghetto come periodo, sì. Di Berlusconi non avremo più, se non pochi, amici suoi. Diciamo che nel bene e nel male Berlusconi è stato molto utile, soprattutto sotto quando in America c'era Bush, è stato abbastanza utile anche a questo nostro grande alleato. Io ho visto un cambio, per così dire, un saliente, nel momento in cui c'è stato fatto alla Fiat questo bel regalino della Chrysler americana, con cui Obama, diciamo, ha dato un segnale abbastanza forte anche in Italia. Scusi, ma qual è il regalino? Non capisco che cosa intende per regalino. Sì, quel regalino serve perché... Non ho capito cosa intende, no? I prezzi della Fiat siano in questo momento non convergenti con quelli dell'attuale governo. Penso che gli uomini Fiat siano sicuramente più vicini al nostro grande alleato storico, gli Stati Uniti d'America. E penso anche che in questo momento sarebbe opportuno, per così dire, che Berlusconi, molto proprio, diciamo con eleganza, si faccia un po' da parte e lasci spazio a nuovi uomini. Vabbè. Ovviamente salvaguardando i suoi interessi infine, invece difendendosi in tutti i processi che ci sono, però penso che per Confindustria e soprattutto per l'Italia sia bene avere nuovi uomini più vicini all'attuale amministrazione americana. Va bene, grazie. Lei ha molte certezze, beato lei. L'amministrazione americana non l'ho capita questa della Fiat, però non gli chiedo di spiegarla perché secondo me a occhio e croce ci porterebbe. È ancora in linea ascoltatore? No, non c'è più. Ci porterebbe davvero di quegli interventi un po' così. Vabbè, Alessandro da Caserta, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì. Buonasera a lei. No, io volevo focalizzare un po' l'attenzione sulla questione meridionale. Io penso che sia Berlusconi che la Lega siano un po' sottovalutando il sentimento che serpeggia negli ultimi mesi, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Io penso che non sia così scontata la cosa per cui si va alle elezioni e rivince il centrodestra così con la stessa configurazione di adesso, ma per un semplice motivo, perché c'è una convinzione forte, secondo me, è la mia sensazione, che nel mezzogiorno che il governo attuale abbia un po' avvantaggiato le aree del nord rispetto a quelle del sud, diciamo, nell'intervento politico-amministrativo. Ma esempio, ci vuol fare qualche esempio su questo? La mia sensazione, gli esempi sono soprattutto la questione delle quote latte, diciamo, degli allevatori del nord, il pagamento delle multe, queste cose qua, e poi l'uso dei fondi FAS per motivi, diciamo, che non riguardano lo sviluppo delle aree arretrate, ma a volte vengono utilizzati in maniera, diciamo, non consona a quelli che sono stati le prerogative per cui sono stati messi in essere. Però ci sono stati anche i soldi a fondo perduto per Catania, per... Sì, però diciamo non c'è stato un intervento generalizzato riguardante il Mezzogiorno d'Italia così come negli anni passati, soprattutto in quel periodo per cui c'era un intervento, diciamo, serio nelle aree meridionali. Lei dice che, insomma, il PDL, perché la Lega al Sud non è neanche presente, avrà prenderà meno voti perché ha seguito troppo la Lega e adesso al Sud... Questa cosa secondo me è molto più evidente rispetto al passato. Io, diciamo, questa è la sensazione che ho a pelle, parlando anche con altre persone, anche poco politicizzate, però negli ultimi tempi soprattutto io sono stato molto incuriosito da quel libro scritto da quel giornalista, si chiama Pino Aprile, Terroni, sono stato incuriosito e sono andato in libreria a cercarlo. Io ho dovuto girare 10 librerie per trovare questo libro, perché era tutto esaurito ed erano tutte copie. Ma scusi, che io non lo conosco, di cosa parla questo libro? Questo libro praticamente è una sorta, proprio adesso che sta parlando dei 150 anni dell'Unità d'Italia, si celebrano i 150 anni dell'Unità d'Italia, questo giornalista fa una sorta, diciamo, di revisionismo storico per quanto riguarda le aree del Mezzogiorno, e lui in sostanza che il nord ha tenuto per molto tempo sotto scacco il meridione. Vabbè, questo mi sembra una tesi modernissima, sinceramente. Non credo sia questo il motivo per cui il libro è andato a ruba. Voleva dire qualcos'altro? Non è questo il motivo per cui ho comprato questo libro, però questo... Poi l'ha trovato il libro alla fine, sì. Poi alla fine l'ho trovato in una libreria, però mi ha colpito questo fatto che giravo e non riuscivo a trovare questo libro. Sarà stato esaurito, forse non pensava neanche lui di vendere così tante copie. Grazie. 19:33 minuti, sentiamo qualche istante Tremonti che sta parlando al meeting di Rimini. Incredibilmente diversi rispetto a prima e ancora incogniti. E cambia anche la politica. La mutazione imposta dalla crisi è anche una mutazione sulle forme del pensiero politico. Non so se è una di quelle lunghe dissertazioni che ogni tanto fa Tremonti, a volte anche molto lontane dall'attualità, poi dissemina lì affermazioni e dichiarazioni che poi lasciano anche il segno. E cerco di focalizzare il mio intervento sull'Europa prima e sull'Italia poi. No, credo che sia comunque un discorso lungo sulla situazione economica, magari qualche stralcio ve lo faremo sentire tra un attimo. Ascoltatori, Dino da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Sì, è in diretta, prego. Sì, buonasera. No, la prima cosa che volevo intervenire è la questione di Bossi. Sì. Perché Bossi senza Berlusconi non sarebbe in governo e diciamo adesso gli sta dietro, perché se non c'è Berlusconi lui non governerà, diciamo. E poi la questione, la seconda è... Sì. Ma questa che cos'era? Una considerazione così fine a se stessa? Tra l'altro non è vero, perché quest'estate si è parlato dei corteggiamenti di Bersani alla Lega. Comunque, va bene, questo è il suo primo punto. Poi? No, perché se non vince Berlusconi, diciamo, se Berlusconi non vince la Lega non sarà mai al governo. Sì. Perché non va mai d'accordo con nessuno, e se non c'è Berlusconi non sarà mai al governo, secondo me. Quindi lei dice che Berlusconi dà fin troppa corda alla Lega, che senza di lui non va da nessuna parte. Sì, sì, sì, sì, è questo il punto. Questo sarebbe un errore tattico di Berlusconi, però. Purtroppo la politica è così, funziona in questo modo, perché se no non possono mica andare a governare. In Italia purtroppo è così. Poi? E poi la seconda sarebbe con l'assessore della Lega, quello che governano qui a Milano, perché io sono di Milano, no? Sì. Non sono di Milano, sono un cittadino straniero che la Lega ce l'ha sempre con gli stranieri. Fanno solo propaganda, perché in sé è un po' comodo, li fa. Quando sono sempre votazioni, purtroppo qui in Italia ogni 2 anni ci sono le votazioni, lo prendono sempre con gli stranieri, con quello che lavorano, con quello che fanno difficoltà, diciamo, per andare a rinnovare il permesso di soggiorno, perché fanno leggi per loro che lavorano, non perché loro che rubano o loro che fanno altre cose, diciamo. Perché se le leggi sono da fare, secondo me sono da fare giusti e li devono fare, ma una volta che uno ruba e dopo 2 mesi è ancora fuori, che senso ha poi, no? Non so a cosa si riferisce, grazie comunque lo stesso. Andiamo in provincia di Imperia, dove ci chiama Giancarlo. Sì, buonasera. Prego. Una piccola premessa, non so se fosse ancora l'ascolto, comunque ho trovato molto lucida nel suo intervento, nella sua pacatezza, la direttrice del secolo. Sì, Flavia Parini. Sì, per quanto io sia da tutt'altra parte, però devo riconoscere un'onestà. E lei da che parte, tutt'altra parte dove? No, sono dall'estrema sinistra. Se ancora esiste da sinistra. Sì. No, comunque, adesso anche quando hai ironizzato sul fatto che accomunano l'unità col secolo, solo questo dalla dimensione in che tempi siamo. Quindi, voglio dire, comunque, di una pacatezza che già non riscontro, per esempio, in giornali tipo il Giornale o Libero, ecco, tanto per intendere. Bene, dopo questa premessa, questa sviolinata, mi ha fatto un attimo pensare quasi l'intervento di Buttiglione, lui che ancora vede governi possibili, come li chiama lui, non tecnici, ma a larga partecipazione, quindi di coalizione. Sì, è un ampia. Tormentone questo qua che portano avanti da sempre, insomma. Sembra fuori dal mondo, sì, infatti, non è reale, secondo me, anche perché appunto vedo proprio come... E poi invece un'altra cosa, sempre a questo riguardo, su questo benedetto voto anticipato, io ho paura che tira la cinghia alla fine e poi magari si andrà veramente a sto voto, non vedo sbocchi. In ogni caso, il fatto che tutte le sere dalla maggioranza più o meno così, maggioranza rotta nel suo interno, però da tutti si sente sì, ma o si governa noi o si va al voto anticipato per forza, perché il popolo ha dato... Insomma, vabbè, basta questa storia qua. Il popolo ha votato anche comunque altri parlamentari. E la Costituzione comunque dice che il Presidente della Repubblica, poi, viste le condizioni, sentiti i partiti politici, poi attrarne le conclusioni. Quindi che Berlusconi e Bossi tutte le sere, ma se non è così, si va al voto a novembre, a dicembre, cioè voglio dire... Sì, è una, se vogliamo, dal punto di vista formale, è una forzatura di quello che sono le previsioni, i dettami costituzionali. Del resto è una consuetudine quella di fare dichiarazioni politiche che abbiano che siano un passo in là rispetto a quella che poi è la prassi, lo sappiamo tutti, le consuetudini. C'è da domandarsi perché, però, magari e su questo sono d'accordo con lei, si debba sempre insistere su questi argomenti, quando invece sappiamo poi tutti benissimo che il passaggio da Napolitano, qualora ci fosse una crisi di governo, sarà necessario, eccetera eccetera. E d'altra parte però, dal suo punto di vista, la Lega ribadisce un punto, che qualora questo accadesse loro diranno andiamo al voto, e quindi poi Napolitano dovrà tener conto di tutti. Non mi sembra, ecco, in questo la sostanza do ragione alla Lega e a Berlusconi, che non ci sia una maggioranza alternativa in questo momento in Parlamento. Sono proprio sogni di mezza estate. Voleva dire qualcos'altro? Sì, una cosa. Sì. Prima è intervenuto lì l'ospite del consigliere comunale di Milano, della Lega. Salvini, sì. Ecco, anche lì, insomma, io c'è questo modo anche lì, anche a livello locale, di dipingere tutto come che vada tutto bene, che adesso, insomma, in quel quartiere che è stato citato, adesso c'è la sicurezza. Insomma, io con questa questione della sicurezza, sia a livello locale sia a livello nazionale, la mafia ha avuto grandi colpi, ma insomma di cosa stanno parlando? Io non capisco, io ironizzo un attimo, perché sembra che sia in dimensioni paradisiache, no? Vabbè, insomma, le domande gliele abbiamo poste, ha dato qualche risposta, bisogna accontentarsi. Grazie anche a questo ascoltatore. Andiamo a Mario, che ci chiama da Piacenza. Buonasera. Buonasera. Ecco, io volevo intervenire per la questione della Fiat. Io sono un lavoratore e volevo dire che se verranno accertate, sempre se verranno accertate delle responsabilità, qualcuno dovrà pagare. Però che in Italia, ripeto, che in Italia ci siano delle aziende come la Fiat che dettano legge, questo è inaccettabile. Perché non è possibile che si senta ancora dire o è così o è così. No, ci sono i sindacati, ci si siede a un tavolo, ci si discute, siamo tutte persone adulte con un cervello, e non è possibile sentire anche perché in Serbia, in Polonia, a me non mi interessa, qua siamo in Italia, non bisogna ragionare sugli altri paesi, qua siamo in Italia e non siamo negli altri paesi. Senta, ma quindi, perché detta legge? Oggi Marcegaglia ha detto, dal nostro punto di vista, Fiat nel rispetto della legge, perché gli operai dovevano essere reintegrati, sono stati reintegrati anche se non al posto di lavoro, e ieri Napolitano questo l'ha sottolineato, ha parlato di dignità del lavoro, però lo stipendio lo prendono. C'è una controversia in atto, c'è un ricorso, questo mi sembra che sia innegabile, cioè dare alla Fiat semmai c'è un altro aspetto, secondo me, che non è stato abbastanza sottolineato, c'è un vuoto perché questo scontro tra i tre operai della Fiat e la Fiat mi pare paradossale, quasi che sulle spalle di questi tre si poggi tutta la questione della competitività internazionale e degli scenari futuri. Non è così, questo è un caso particolare, verrà risolto dal giudice, è una controversia, sì, la Fiat non li vuole più, loro vogliono restare, per fortuna ci sono le leggi, c'è un giudice. Il problema è la politica industriale in questo paese, e io l'ho già detto, secondo me il fatto che noi adesso non abbiamo un ministro dello sviluppo economico, perché l'interim ce l'ha Berlusconi dopo le dimissioni di Scajola. Insomma, io ho sentito Sacconi fare qualche dichiarazione, ma nessuno prende in mano questa situazione, e forse ce ne sarebbe bisogno, ci sarebbe forse bisogno di un dibattito parlamentare sulla legge sulla rappresentanza sindacale, sugli obiettivi di politica industriale in Italia. Questo secondo me sì. Il resto è forse anche questo un po' un teatrino, ognuno si schiera come crede, però insomma stiamo ai fatti, eh. Siamo ai fatti, ma io non sto mica dicendo che non ci stiamo mica inventando niente, però sì. è anche giusto dire che la signora Marcegaglia vuole più produttività, bisogna essere competitivi. Noi lavoratori siamo i primi a dirlo, perché ci guadagniamo tutti, però dire, e come fanno molti industriali. Ma lei che lavoro fa? Costruisco i camion, lavoro per l'Astra Veicoli Industriali di Piacenza. Quindi è un competitore della Fiat? Sì, io lavoro per il gruppo Fiat. Ah no, scusi. Il industriale che fa parte del gruppo Iveco. Ah, il gruppo Iveco, sì, perché sì, il camion però, fa la Iveco, sì. Lasciamo stare questo, Fiat. Però il ragionamento è che questi industriali la devono smettere, perché noi non stiamo parlando come 30-40 anni fa, come qualcuno dice, lotte di classe, queste stupidaggini che le dicono solo le persone ignoranti, perché non sanno a che santo aggrapparsi. Allora, sì. Allora, c'è ciò che è giusto, ciò che è sbagliato è sbagliato. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, però non è possibile che nel 2010 si senta ancora dire o è così o è così. No! Allora, se in Serbia si produce in un certo modo, in Italia si produce in un altro, perché non siamo in Serbia, non siamo in Polonia, non siamo neanche negli Stati Uniti. Però mi scusi se, sì, ma mi sembra che sia stato chiarito anche questo aspetto. La Serbia è una parte di questa vicenda, la Fiat ha deciso di produrre lì un modello che era fatto a Mirafiori, però sono state date rassicurazioni sul fatto che Mirafiori non chiuderà. Questa è una cosa che non riguarda lo stabilimento né di Melfi né tantomeno quello di Pomigliano. C'è un piano di investimenti per l'Italia che Marchionne ha presentato, e però la Fiat vuole delle garanzie. D'altra parte, il piano di investimenti, lei che è un dipendente a questo punto, come lei ha letto sul giornale? Puoi ripetere la domanda per favore, che non ho capito. Il piano che la Fiat ha messo a punto e che prevederebbe, se tutto va liscio, una serie di investimenti in Italia, questo potrebbe essere una novità positiva per il nostro paese, per dare lavoro anche a altra gente, o no? Certo, secondo sì, lei? Però, no, ma io sono d'accordo, però che la Fiat detta legge, no, perché la Fiat non comanda in Italia. Ma scusi, ma perché la Fiat detta legge? C'è il giudice che ha stabilito il reintegro, non è che detta legge. Io lo vedo anche nella mia azienda. Allora, adesso si è arrivati a un punto, dato che gli industriali cavalcano la crisi, con la scusa della crisi, loro ti dicono: senti, il contratto è questo, o è così o se no noi chiudiamo e portiamo tutto l'Expo. Secondo lei, lasciamo stare operai industriali, secondo lei, da un punto di vista umano, è un ragionamento da persona intelligente, da persona che ha una coscienza, questo? Secondo lei? L'azienda lei lo sa benissimo, l'azienda si muove sul mercato, e questo non lo scopriamo oggi. Ci sono ragionamenti intelligenti. Sì. Ma vedi, ci sono due. Se sua moglie gli dicesse: se a te non ti piace la pasta sugo, te vai a mangiare al ristorante. Ma che ragionamento è questo? Cerchiamo di trovare una soluzione insieme. Certo, ci sono due punti secondo me in questo discorso. Uno è quello che riguarda la Fiat e la sua capacità di stare sui mercati, di produrre. La Fiat è libera di produrre dove e come vuole, dove crede, lo sta facendo in Italia, lo sta facendo all'estero, anche perché molte auto le esporta in Brasile o in Russia. E dall'altra parte c'è una questione di occupazione in Italia. È evidente che non possiamo rimanere senza manifattura, senza produzione, senza niente. E questo però è quell'altro aspetto del discorso che facevo io prima, credo almeno, mi do ragione da solo, vede, sul fatto che manca una politica industriale, forse manca un dibattito a livello nazionale su quello che può fare l'Italia per il futuro, dove investire, come attenere, attrarre gli investimenti anche della Fiat o di altre imprese in Italia, e non soltanto per via degli atteggiamenti dei singoli operai, ma con una merce di scambio più grossa, che sono le infrastrutture, che sono un sistema della giustizia che funzioni, eccetera, eccetera. Quindi sono due aspetti. Per quello dicevo, stiamo ai fatti. La Fiat fa il suo lavoro, però forse chi è che non sta facendo il suo lavoro è la politica, una volta ancora di più. Va bene, sì, comunque. Ma vede, mi scusi ancora un attimo. Molte volte si passa la palla alla politica, però stavolta è un discorso di industriali. Allora, qui c'è un signore che si chiama Marchionne e dice: senti, io devo fare, volete queste macchine, volete questi camion, benissimo, le condizioni sono queste. Oh, aspetta un attimo, scegliamoci. No, bisogna fare così. Ma chi sei tu? Cioè, ma chi ti credi di essere? Cioè, allora, vogliamo fare i plastici? Ma porta tutto all'estero, ma chi se ne frega? Però dopo il governo se ne assume la responsabilità. Perché giustamente se tu mi porti tutto fuori, perché in Serbia, in Polonia, in Ungheria, nei paesi all'estero si spende meno, perché il ragionamento è questo, perché sono tutte palle che lo fanno credere a voi, io non ci credo, come i miei colleghi, non ci crediamo, che lo fanno per il bene del paese, sono tutte palle, perché l'industriale va dove si spende meno e dove si guadagna di più. Vabbè, non sono riuscito a trovare un punto, a convincerla sull'altro aspetto. Va bene, comunque è giusto anche avere opinioni diverse. Grazie, magari torniamo a sentirlo questo giustamente infervorato sulla questione lavoratore di Fiat. Possiamo definire un lavoratore della Fiat lei a tutti gli effetti. Possiamo definirlo un lavoratore della Fiat, perché lavora per un'azienda che lavora per certo, la Fiat. Certo, io sono un lavoratore della Fiat, sì. Ecco, e quindi abbiamo fatto una bella discussione. Grazie, ci fermiamo qua però per ora, anche perché abbiamo un altro ospite che ci riporta a Roma. Ieri abbiamo fatto un appello, abitanti di Tor Bella Monaca, chiamateci 824 0024 e diteci se volete essere abbattuti e ricostruiti o se state bene così. Avevamo detto sembra una sparata alla Fuffas, l'archistar della parodia di Maurizio Crozza, la proposta di Alemanno. Forse però non è così, potrebbe anche essere una cosa seria. Abbiamo convocato, siccome si parla però anche di un altro argomento, abbiamo convocato Gianni Ciotti, segretario provinciale del SILP, il sindacato della polizia che fa capo alla CGIL. Buonasera. Sì, buonasera, scusate per i rumori ma sto per strada. Ecco, a Tor Bella Monaca magari, no? No, sto tutt'altra zona. Tutt'altra zona. Perché l'abbiamo convocato? Perché in questa vicenda, diciamo alla fase 2, dopo l'uscita di Alemanno, che qualcuno ha bollato come una butad, non noi che l'abbiamo presa però sul serio ieri, sono venuti fuori altri aspetti, cioè la questione: ma perché abbattere un posto dove non si è neanche provato a investire coi servizi adeguatamente? Non c'è la linea della metropolitana, c'è solo un autobus. E altra cosa, qualche mese fa abbiamo scoperto, ora ce lo racconta lei, è stata chiusa la sede locale, una caserma della polizia. Sappiamo che è un quartiere a rischio, allora tutti si dicono: ma come? Come? Chiudiamo la polizia proprio a Tor Bella Monaca? È quello che è successo? Sì, è successo esattamente così. È paradossale che si parla di investimenti miliardari per la ricostruzione di un intero quartiere, parliamo di 8.000 abitazioni circa, e dopo non si spende una parola per la chiusura dell'ultimo presidio di legalità che era il posto di polizia là a Tor Bella Monaca. Cos'era, una caserma con quanti addetti? E guardi, non era una caserma completamente operativa, però già il fatto che c'erano dei colleghi che ci dormivano, sì, che quindi c'era un passaggio continuo di poliziotti, dava già... Cos'era, una residenza, un dormitorio, una residenza o era anche un punto aperto al pubblico? Era inizialmente un ufficio per le denunce, dopodiché c'erano degli alloggi, incluso nello stabile c'erano degli alloggi di servizio per poliziotti. Sì, e che è successo? Progressivamente è stato smantellato fino alla chiusura e voi però avete protestato perché secondo voi invece questo era un punto importante per il servizio in quel quartiere? Secondo noi era ed è uno snodo cruciale, cioè quando si taglia sulla sicurezza, si taglia un commissariato, un posto di polizia dove universalmente riconosciuto ve ne è bisogno, proprio si parla anche di questo, soprattutto sì, di questo, significa che c'è schizofrenia. Però una cosa le voglio chiedere, perché questo che lei dice è inattaccabile, ma l'interlocutore vostro è stato il Viminale, il Ministero degli Interni o l'amministrazione comunale, perché si tratta di soggetti diversi? Sì, effettivamente è così. Il nostro referente diretto è il Ministero degli Interni e il Questore. Quindi la chiusura è stata decisa a livello di Ministero dell'Interno e probabilmente rientra in questo piano di tagli e di ristrutturazione. La sento male, però c'è punto che gioca a favore del sindaco in quella fase. Sì. Il sindaco con le nuove norme, con l'elezione diretta, è causa importante, è causa principale nella sicurezza cittadina. Si deve far carico di queste situazioni. Cioè lei dice Alemanno non si è speso abbastanza per difendere questo posto di polizia che poteva essere importante per Tor Bella Monaca e se n'è dimenticato troppo facilmente e adesso si occupa del mega progetto. Non ha fatto alcun atto riguardo alla chiusura di quel posto di polizia, quindi insomma forse è una spiegazione che dovranno dare ai cittadini di Tor Bella Monaca. E io leggevo nell'intervista che lei aveva rilasciato ieri, se non sbaglio, che avevate tentato anche un intervento con gli anziani del quartiere che però è andato male? No, noi abbiamo tentato di far raccogliere le firme, qualche associazione ha raccolto le firme per noi per portare avanti questo progetto di tenere in piedi il posto di polizia, sì. Purtroppo insomma non è andata a buon fine. Avevate raccolto delle firme? Avevamo raccolto qualche migliaio di firme. Quante? Qualche migliaio? Sì, sì. E niente, questa le avete mandate, credo, al Ministero degli Interni, che vi hanno risposto o non vi hanno neanche risposto? Ma no, su queste situazioni il Ministero dell'Interno non è un interlocutore valido per situazioni anche politiche. Però avevate provato a coinvolgere anche il Comune. Noi abbiamo provato a coinvolgere tutte le amministrazioni interessate, abbiamo fatto addirittura intervento nella sede del municipio. Sarà precedente all'insediamento di Alemanno, immagino, non è che è tutta colpa sua adesso, no? No, assolutamente, qua non si vuole dare la responsabilità a nessuno in modo specifico, tutte le responsabilità ce l'hanno tutti. Sì, sì, voi fate un discorso, diciamo, così di denunciare una situazione oggettiva. La monaca ce lo ritroveremo fra qualche anno a Tordinona, è la stessa identica situazione che si sta sviluppando. Un altro quartiere dormitorio dove non è stato previsto nemmeno un posto. Io non sono romano, quindi non posso... Tordinona, guardo in regia perché abbiamo una componente romana, ma va bene, e qui ci porterebbe su un altro argomento. Grazie Gianni Ciotti, prego, segretario provinciale del SILP, per queste notizie che riguardano Roma. 19:54, riprendiamo ancora per qualche minuto con gli ascoltatori prima della pausa. Dove andiamo? Gianni, che ci chiama dalla provincia di Savona, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Pronto? Mi sente? Sì, è in linea. No, senta, no, io volevo solo intervenire perché faccio parte di quel 25% che abbiamo, di quella generazione che abbiamo perso. Io ho 65 anni e penso che abbiamo perso e basta. E pronto? Sì, però mi scusi, esca un attimo dalla sua frase criptica. Sì, il 25% che ha perso a 65 anni, cosa si riferisce? No, io faccio parte di quel 25% che non va più a votare. Ah, ecco. Che penso che non siamo pochi, sì. Perché ritengo, io sono sempre stato un elettore di sinistra, no? E in questo momento qua penso che questa sinistra deve solo sperare che questo governo non cada. Io posso dire la mia così spassionata: se io fossi Bersani voterei tutte le leggi che questi propongono, perché se questo governo cade, sì. E Bozzi lo sa benissimo, chiaramente lo sa benissimo, le elezioni le vincono di nuovo loro. Perché intanto questa sinistra qui esiste fino a un certo punto, non sanno ancora chi potrebbe essere il candidato. Beh no, ma l'abbiamo pensato tutti leggendo le prime dichiarazioni quando è scoppiata questa crisi da parte del PD, che tutto parlava tranne che di elezioni, ed era evidente che dietro c'era anche un timore di andare a perderle queste prossime elezioni. Si vanno alle elezioni, perché quando quel signore di prima diceva che al sud... Fino a prova contraria, mi pare che l'ultima volta su 61 collegi in Sicilia ne hanno preso 61, ha fatto 61-0, no? Mm. Quindi non credo che quei voti lì li perdano, anzi, non ne parliamo neanche, perché 61-0 non esiste neanche se si gioca a rugby contro i bambini, via, se la nazionale del campione del mondo gioca a rugby. Vai, voleva dire qualcos'altro su qualche altro argomento? Sì, no, volevo solo dire questo, sì. Volevo dire che anche lì la Fiat che dite voi va qui, va là, no? Giusto, che vada dove vuole, d'accordo, però non mi può far pagare le macchine che fa in Polonia come se l'avesse fatto in Piazza Castello a Torino, capisci? Ecco, il discorso è che mi lascia l'operaio a casa qui, no? Qui me lo lascia a casa, la fa fare là e me la vende come se l'avesse fatto in Piazza Castello a Torino. E sono d'accordo che ognuno deve guadagnare una cosa là, ma fino a prova contraria mi pare che non abbiamo neanche il ministro che si occupi di quelle cose lì, perché è qui a 50 km da casa mia, che è nell'orto. Però è inoccupato. Grazie Gianni Scaiola. Dove andiamo? Luciano, che chiama da Padova. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Niente, io volevo un attimo difendere praticamente quelli che sono stati definiti della Lega del Nord. Sì. In realtà la situazione non è pesante solo per alcune persone. È molto pesante anche qui, soprattutto in Veneto. Se anche andiamo a guardare i dati, ce ne rendiamo conto. Io per esempio stamattina ero sulle aziende, sui capannoni, aziende che fino a una decina d'anni fa avevano una produzione enorme. Adesso stamattina stessa gli operai ci hanno detto: qui in questa fabbrica qua, su 140 dipendenti, 70 sono stati licenziati e rientro dalle ferie. Cioè, non è che sono rimasti in cassa integrazione, sono rimasti a casa. Io non so perché se rimangono 70 dipendenti a casa in Veneto non fa notizia, se invece rimangono 10 dipendenti a Roma allora fa notizia in tutti i giornali. Cioè questa qui è una cosa normale che sta succedendo in tutti i capannoni del nord-est. Praticamente si stanno dimezzando quelle che sono le ore di lavoro nei capannoni. Perché? Perché semplicemente le aziende trasportano all'estero la produzione, perché il costo della manodopera che abbiamo noi in Italia è il più alto del mondo. Quindi lei dice che la crisi non c'entra, qua è una decisione diversa. La crisi c'entra, ma infatti io ho parlato anche con i dirigenti. La crisi c'entra fino a un certo punto, perché in realtà la crisi viene data dalla concorrenza. La concorrenza che sta venendo avanti dai paesi come l'India, come la Cina, cioè è micidiale. Immaginiamo che la Cina è in grado di importare in Italia una utilitaria 1100 di cilindrata per 3000 euro. Ma mi spiegate voi cosa farà la Fiat in Italia di fronte a una cosa del genere? E quindi cosa dovrebbe fare la Fiat? Semplicemente bisogna che il costo del lavoro sia adeguato a livello almeno europeo. Cioè dovremmo avere un costo del lavoro più basso. Diverso, più basso. È chiaro che con un costo del lavoro più basso saremo più concorrenziali. Secondo me è l'unica strada, l'unica via, non ce ne sono altre. Però come la mettiamo col fatto che per esempio invece in Germania gli stipendi sono più alti e le aziende non chiudono? Però La Germania non ha il debito pubblico che abbiamo noi. Noi abbiamo il problema che abbiamo uno Stato che è una palla al piede. E questo è un problema. Sono le 20 in punto, TG1. No, non abbiamo il titolo di TG1. Sì, ce l'abbiamo. Vertice Berlusconi Bossi, il leader della Lega, per ora niente elezioni, Maroni, operazione per far fuori il Premier. I finiani andare avanti, l'UDC cala sipario sul teatrino d'agosto, intervista di Bersani al TG1, la maggioranza non bastano i vertici, patto fra le forze di centrosinistra. Omicidio tra cinesi nel Vesuviano, l'impenetrabile comunità tace e a Napoli la Chinatown si sta dilatando. In Somalia le milizie islamiste ancora all'attacco nelle strade di Mogadiscio, esercito e forze di pace respingono un assalto al palazzo presidenziale. In Sardegna una donna muore dopo una puntura di medusa, un caso limite, l'invasione dei nostri mari c'è ma non sono killer. Stress da rientro colpisce 6 milioni di italiani, ma attenzione anche all'alimentazione. Da un esperto il decalogo delle regole da osservare, niente caffè, legumi, fritture e cibi piccanti. TG5. Vertice Berlusconi Bossi sul Lago Maggiore, il leader leghista, per ora niente voto, andiamo avanti ma senza l'UDC. Marcegaglia, Fiat ha agito in linea con la legge e la prassi, i vescovi, l'azienda ha violato la dignità del lavoro. 100 anni fa nasceva Madre Teresa, la piccola grande suora ambasciatrice di amore nel mondo, Papa Wojtyla ne volle la beatificazione in tempi record. In Sicilia l'ultimo saluto alla donna morta in un incidente stradale che sull'ambulanza ha dato alla luce una bambina, migliora la piccola Marisol. Vacanze addio, torna lo stress di tutti i giorni, un'azienda ricorre al personal trainer per i dipendenti, una psicologa ci spiega come evitarlo. Miss Universo è bruna e messicana, Miss Mondo una mora di Gibilterra, ma davvero gli uomini non preferiscono più le bionde? È ancora in corso l'intervento del ministro Tremonti al meeting di Rimini, Tremonti che ha detto è utile andarsi a rileggere gli scritti dell'ex segretario del PCI Enrico Berlinguer sulla austerity, si tratta di un ragionamento sulle responsabilità del bilancio che potrebbe essere una base di lavoro per i prossimi anni in Italia. Tra poco proviamo a sentire ancora un po' di Tremonti, adesso titoli del TG della 7. Niente voto e niente casini nel governo. Berlusconi e Bossi si mettono d'accordo nel vertice a Villa Campari sul Lago Maggiore. Per ora si va avanti così, tira il freno il leader della Lega. Bravo Bossi, esultano i finiani. Ma Maroni parla al meeting di Rimini e dice c'è un'operazione per far fuori Berlusconi. Non è un complotto, ma un progetto che contrasteremo. Subito al voto il centro-sinistra può vincere, ma no ad ammucchiate da casa di tolleranza. Ho anche un nome per il candidato leader, ma non lo dico per non bruciarlo. Nostra intervista a Di Pietro. Primo sondaggio dopo queste settimane di duri scontri politici. La vicenda della casa di Monte Carlo penalizza Fini, ma comunque un partito del presidente della Camera avrebbe il 7%. Intervista a Daniela Santanchè, crocevia delle polemiche estive su donne con i tacchi a spillo, volgarità in politica e attacchi al presidente della Camera Fini. Niente sesso sul fiume Sacro alla Patria, la nuova linea del Piave decretata dal sindaco di Spresiano in provincia di Treviso, che fa scavare un fossato per impedire l'accesso sul greto. È lo stesso primo cittadino che aveva definito malati i gay, ma non ce l'ho solo con loro, dice questa volta. Il 7% è un partito di fini, il sondaggio, uno dei primi, dicono i TG del TG di Enrico Mentana, e in effetti fino ad ora di cifre non se ne erano fatte, penalizzato dall'affare Monte Carlo, però insomma il 7% non è neanche pochissimo. Sentiamo Tremonti a Rimini. Che è un calcolo algebrico, c'è anche dentro l'onere che tu hai sull'import di energia. Vabbè, sta parlando di scenari. Riprendiamo Luciano da Padova, avevamo lasciato un nostro ascoltatore che stava parlando dei salari in Italia troppo alti, certo, spingono le aziende ad andare via, ma c'è un limite in basso, perché altrimenti rischiamo di scivolare. Lei che lavoro fa, per esempio? Io sono un operaio metalmeccanico, lavoro da 38 anni, quasi 39, per cui, e ho sempre fatto lo stesso lavoro, per cui... E lavora in una grande azienda oppure... No, io ho lavorato per più di un'azienda, ma sempre per, sì, lo stesso lavoro. Praticamente ho lavorato per le multinazionali e adesso lavoro e mi trovo molto bene con un artigiano. Ma lei stesso invita sostanzialmente ad abbassarsi lo stipendio, è quello che ha detto in qualche modo. No, non è che sia un caso unico. Cioè, il problema non è quello di abbassare lo, sì, stipendio, il problema è quello che un'azienda deve sopravvivere e deve essere concorrenziale con altre aziende. Oggi, per avere le aziende concorrenziali, non è sufficiente avere la concorrenza fra il Veneto e la Lombardia, dobbiamo essere concorrenziali. Grazie al fatto che c'è della globalizzazione, dobbiamo essere concorrenziali con il mondo in realtà, cioè dobbiamo essere concorrenziali con aziende che operano nell'est Europa, con aziende, per esempio, le faccio un esempio della Siam di Vicenza, una grossa società, una grossa multinazionale veneta, che ha produzione un po' in due o tre parti in Europa, e questo è un esempio che le faccio perché conosco uno dei titolari. Per esempio la Siam potrebbe far rientrare tutti gli operai dalla Cecoslovacchia, cioè tutta la produzione che ha in Cecoslovacchia, con il 20% di tassi in meno. Cioè noi possiamo rimanere nel mercato, queste sono le parole che abbiamo avuto in un incontro. Quindi vede che poi alla possiamo fine mi dà ragione. Sì. È una questione ampia che non riguarda solo il livello dei salari, ma riguarda, è per quello che per esempio in Germania con i salari più alti riescono ad attrarre comunque gli investimenti a produrre e esportare. Evidentemente è un sistema complessivo che riguarda la tassazione, riguarda il sistema giudiziario, insomma anche questi sono argomenti detti e ridetti. Adesso l'attenzione si concentra sul livello dei salari, ma vabbè, anche questo è un tema. Va bene, grazie anche a questo ascoltatore che ci chiamava dal nord-est. Adesso restiamo a Treviso. Alessandro, buonasera. C'è un ritorno, abbassi la radio. Sì, o la ok, spenga. Va meglio adesso? Sì, perfetto, prego. Ah, no, guardi, io sono intervenuto prendendo pretesto la Santanchè. Effettivamente è l'unica cosa di cui dovremmo preoccuparci. Dica quello che vuole, lasciamole una sorta di impunità. È molto più interessante e molto più importante per noi, parlo di cittadini, affrontare un discorso che non si può più rinviare, che è quello che stava facendo lei con l'ascoltatore che mi ha preceduto. Purtroppo bisogna cominciare, bisogna che la politica, oppure quei momenti di aggregazione, di scambio di idee delle persone, che possono essere ad esempio anche la vostra radio, la vostra trasmissione, comincino a porsi dei problemi su dei tabù storici. Io sono una persona di sinistra, però effettivamente la rappresentanza sindacale, così come è espressa oggi in Italia, è fuori dal momento storico. Ci occorrerebbe una scelta coraggiosa, non per contenere, ma per far rientrare in ambiti di mercato, quindi con delle compatibilità economiche, la stessa rappresentanza sindacale. Faccio un esempio, è vero che per attrarre capitali stranieri occorre un sistema di logistica adeguato, occorre la giustizia, occorrono i servizi, ma occorre anche la possibilità, una volta definito un piano, un accordo, di procedere, perché per star lì a spiegare un accordo, un investimento, un business plan a 3.000 persone non è possibile. Purtroppo, sì, questo è un altro argomento, quello del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. Sentiamo ancora Tremonti a Rimini. Del passato, presente del presente, presente del futuro. Il primo è la memoria, il secondo è la visione, il terzo l'attesa del futuro. e non c'è attesa, non c'è speranza senza un tempo interiore. Ed è per questo che io qui cerco di esprimere il mio pensiero e di rappresentarvelo in una logica di responsabilità che sento e che vorrei condividere con voi. Con la globalizzazione noi siamo passati di colpo dall'età della certezza all'età dell'incertezza, dal mondo G7 al mondo G20. E di colpo perché mai nella storia dell'umanità una mutazione così profonda, sono cambiate di colpo la struttura e la velocità del mondo, è avvenuta in un tempo così breve. In soli 20 anni, quanti sono gli anni che vanno dalla caduta del muro di Berlino ad oggi? 20 e 11 minuti, rientriamo con qualche ascoltatore. Chi andiamo? Da dove andiamo? Andiamo a Claudio che ci chiama da Vicenza. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Volevo dare la mia opinione su Fini. Sì. Io sono stato un suo convinto elettore per anni, da quando era all'MSI a quando è passato all'Alleanza Nazionale. Da qualche anno non lo voto più, perché avevano ragione quelli che mi dicevano: guarda che questo ci rovina tutti. Infatti ha rovinato l'MSI, ha rovinato l'Alleanza Nazionale, tutti i passaggi che ha provato a fare li ha sbagliati. Beh, l'Alleanza Nazionale tengo... perché l'ha rovinata? Perché quando hanno fatto il PDL, lui ci è andato quando, dopo il Predellino, subito ha detto no, queste cose non si fanno, e ha capito che perché per poter arrivare dove è arrivato doveva dire sì, mi va bene entrare nel PDL, e ha cancellato l'Alleanza Nazionale. Come possono dire... come hanno detto i consiglieri di Alleanza Nazionale che a Vicenza erano gli assessori del Consiglio Comunale, perché lui si è comportato così, senza dire niente a nessuno, senza andare a fare nessuna adunata, a dire guarda che adesso passiamo nel PDL, andiamo tutti in PDL e Alleanza Nazionale non esiste più. Questo qua è Fini, per questo dico che lui ha tradito tutto quello che avevamo, quello in cui si era creduto. Adesso però sembra che Fini stia facendo un altro discorso. Sì, infatti ha tradito tutte quelle che erano le idee che erano partite da lontano, che con Almirante poi era passato all'Alleanza Nazionale pensando di arrivare a chissà cosa, arriverò al 15%, poi fa l'alleanza con l'Elefantino, non ne ha indovinata una. Adesso per opportunismo, visto che è arrivato ad essere Presidente della Camera, sta lì, è un posto istituzionale e si fa il suo partito all'interno del PDL. Questa qua è la realtà, purtroppo. Per questo lo ritengo un traditore. È veramente una grandissima delusione, perché lo ritenevo un lusso per la politica italiana fino a una volta. Non avrei mai pensato, invece aveva ragione chi mi diceva: guarda che vedrai dove arriviamo, è arrivato. Quindi lei non lo vota più, ma ci tornerà a votare? No, ci vado, io adesso voto Berlusconi. Cioè a destra ci sono Berlusconi, cosa devo votare? Fini o le mezze figure che l'hanno seguito? cioè l'erede di Almirante è Berlusconi? Ma per me... no. E lei ha citato Almirante, ha citato quell'epoca lì, e dice no, Fini ha svenduto tutto, adesso c'è solo Berlusconi. Nel panorama attuale la destra per me è Berlusconi, cioè, centro-destra o destra, da lì non ci si scappa. Ho capito, grazie. Niente. 20 e 14, facciamo il traffico e poi rientriamo. Strade in diretta. Lungo la 12 Genova-Livorno, tra Santo Stefano di Magra e Brugnato, sulla carreggiata verso Genova, si resta in coda per circa 8 km a causa dell'incendio di un veicolo all'interno di una galleria, si transita ancora su una sola corsia. Sulla 14 Adriatica il traffico è intenso verso Bologna, code a tratti e rallentamenti tra Fano e Rimini Nord. Lungo la 3 Salerno-Reggio Calabria verso Salerno il traffico è rallentato in prossimità dei cantieri tra Falerna e San Mango d'Aquino e poi tra Lauria e Lago Negro. Mentre al traforo del Monte Bianco l'attesa è ancora di circa 30 minuti per il traffico intenso in direzione della Francia. È tutto, noi torniamo tra mezz'ora. La Zanzara. Buonasera a Ivan Puddu, imprenditore della provincia di Ogliastra in Sardegna. Buonasera a tutti, buonasera, salve. E titolare del Mac Puddus. Sì, sì, eccomi qua, presente. Sì, però ha dovuto cambiare insegna o no? Sì, purtroppo sì, alla fine abbiamo cambiato l'insegna, per modo di dire, ecco, l'abbiamo censurata. Come per modo di dire? L'ha cambiata o no? È quella. L'ha dovuto censurare. L'abbiamo modificata, ecco. E adesso cosa recita l'insegna? Allora, l'insegna recita un censored sopra la scritta ex Mac, e poi è apparso un suffisso sardo, che è il nostro Mac alla scozzese, che è sostituito dal De Puddus. E quindi prevedo che la causa con i legali della McDonald's andrà avanti, perché se comincia a fare questi scherzi censored, cioè, no, spieghiamo quello che è successo. È successo sì, che lei è il titolare, allora, di una rivenditoria e produzione di cibi sardi. Sì, noi praticamente, allora, abbiamo iniziato nel 2008, io e la mia fidanzata, con l'idea di trasformare i cibi sardi, tipo i curgioni, non so se voi conoscete, no, che è una pasta fatta di farina con un ripieno di patate, formaggio, pecorino, e condito col sugo e il pecorino, li abbiamo trasformati in un piatto da fast food, nel senso che per la loro preparazione ci vogliono 2 minuti di ebollizione in un bollitore, poi conditi e poi dati subito alla clientela, ecco. Quindi, con i prodotti fatti da noi, sì, abbiamo la mamma di Martina, signora Laura, che è la mia fidanzata, praticamente, che produce questi curgioni qua nel nostro laboratorio, abbiamo iniziato a dare vita a questo fast food sardo. È così, ma per ridere, tra... Ci troviamo a Santa Maria Navarrese? Sì, stiamo parlando di un paesino di 1500 anime, Quindi con gli amici, come lo chiamiamo, dai, vediamo un pochettino, ditemi voi, sai come si fa, sì, ci si incontra la sera al bar degli amici e si decide l'insegna del locale. Non abbiamo fatto una grande riunione di marketing con un consiglio di amministrazione, di quelli con i tavoli rotondi, con un grande numero di persone, noi eravamo degli amici, abbiamo detto, ma sì, ma chiamalo Mac Puddus, per ironizzare, ma soprattutto per dare un'idea di un pasto veloce da mangiare. Poi il mio cognome è Puddu, che vuol dire gallo, non siamo scozzesi, è vero, siamo sardi, però volevamo trasmettere la tipicità sarda in maniera ironica, ecco. Tutto là, perché tutto là. A dire la verità, in questa vicenda, premesso che il Mac è, appunto, come anche, credo, non so se lei adesso ha dei legali che la stanno seguendo, perché ho sentito che la regione Sardegna le vuole pagare le spese legali perché l'appoggia. Sì, abbiamo... C'è una causa aperta. Parecchie persone, no, addirittura ci chiedono di rimettere il Mac in vista, perché praticamente... No, ma mi risponda, c'è una causa aperta? La no, Sardegna no, le paga le spese? Le spiego com'è andata. Sì. Allora, un mese fa è arrivata la prima lettera, dove la McDonald's ci diffidava assolutamente di utilizzare il suo Mac. Quindi, intimandoci di toglierlo, altrimenti si arrivavano per vie legali a un processo a Roma, nel tribunale competente. Noi, le dico, la nostra reazione è stata di paura, subito. Io ho 32 anni, la mia ragazza ne ha 24. Addirittura avuto... paura per una lettera di un avvocato. Arriviamo però adesso alla questione. Voi avete cambiato insegna, ma c'è o non c'è una causa con questa McDonald's? No, ancora non c'è, nel senso che noi abbiamo chiesto alla McDonald's di non aprire la causa, perché avremmo messo, appunto, coperto la scritta Mac e messo il DE. Quindi dice, avete messo la testa a posto e sperate che si chiuda qua. Sì. Però sì, se non ho capito male, la regione Sardegna invece la invita ad andare avanti e le propone di pagare le spese, o ho capito male? Sì, no, è così. Dice che, cioè, da tutti quelli che ci stanno dando adesso sostegno alla nostra piccola attività, vedono comunque che è un atto di arroganza da parte di una multinazionale nei confronti di una piccola bottega di un paese, perché di bottega si parla. Adesso sto parlando con voi da un retrobottega, si figuri, quindi in mezzo ai, come si chiamano? In mezzo ai curgioni, no, adesso sì. Ma fate solo quelli o fate anche dell'altro? Facciamo, allora, i curgioni, i Maloreddus e poi le Sevadas, che sono un... Queste le conosco. Un formaggio che si scioglie nell'olio bollente e diventa un dolce caldo. Sì. Però ecco, il punto che mi volevo toccare è questo. Lei ha detto, l'abbiamo fatto per ironia, forse anche magari sperando di un po' di pubblicità, che poi tra l'altro è arrivata, benedetta. No, assolutamente, quello no. Guardi, proprio non... Però scusi, Non era voluto. Non era voluto. Cioè, perché anche come è successa tutta la questione, ovviamente la stampa ancora non lo sa, però è venuto a mangiare qua il giornalista locale, che è Giampaolo Porco, che è qua del paese, che scrive articoletti per la cronaca, articoli per la cronaca qua dell'Unione Sarda nella pagina Ogliastra, e ha visto la scritta con censored. e ci ha chiesto, questo è successo una settimana fa, ecco perché è esploso il caso in questi giorni, e ci ha chiesto: ma come mai avete la scritta col censore davanti al Pudus? Io ho detto: guarda, sono arrivate due lettere. Vabbè, gliela spiegate e poi è venuta fuori tutta la vicenda. Sì, e lui ha scritto, l'Unione Sarda l'ha messo in prima pagina e sapete quello che sta succedendo. Ma quello che io le voglio chiedere è questo: lei ha detto l'abbiamo fatto per ironia, va bene, ma perché proprio Mac, con questo richiamo al McDonald's, se lei punta proprio sul prodotto locale e non gliene frega nulla naturalmente dei fast food, beati voi che ve lo potete permettere con questo ben di Dio che fate, non era più logico cercare un nome sardo e farla finita lì? Ma non c'è nessun nome sardo che evochi ai tempi nostri un prodotto sardo che può essere consumato in maniera cotto e mangiato. E allora forza, con un po' di fantasia. Fast food, fast puddus? Fast puddus. Poteva essere anche quello. No, ma può darsi, lei ce l'ha di fantasia. Un in più avremmo messo fast food, fast puddus. Però. Questo secondo me non glielo può censurare nessuno perché Sì, però ha capito fast qual è la intenzione. Era prodotti nostri locali senza... La cosa che ci ha fatto un po' fastidio è che loro hanno scritto una lettera che i nostri prodotti facevano confusione con loro. Lì è nato l'orgoglio, ha detto: ma come? Questo mi sembra un po' difficile da dimostrare. Appunto, confondi l'hamburger fatto con la ricetta McDonald's con un culurgione fatto con la ricetta di signora Laura. Ho detto: no, non è possibile, ci sia confusione, assolutamente. E d'altra parte però io insisto, lei lo sapeva che andava a parlare lì, non è possibile che non se lo immaginasse. Guardi, le dico proprio con... sono 3 anni aperto, quindi si figuri che saremmo andati a finire in questo modo. Assolutamente, per noi è stata una sorpresa. E chissà come hanno fatto quelli della McDonald's ad arrivare a Santa Maria Navarrese e a scoprire che c'era McPuddu. Facebook. Facebook e internet, perché comunque si cliccava... Accidenti, è stato fregato dai social network lei. Sì. Imbrogliato dai social network. No, scherzando. No, praticamente se in Facebook uno mette la scritta Mac, usciva anche il nostro gruppo che era Mac Putus. E quindi passaparola, però poi magari è arrivata anche all'orecchio di qualche... Sì, ma io penso che questo studio legale lavori proprio a quello, a trovare in tutta Italia chi... Sì, perché tra l'altro ce ne sono parecchi di casi. Anche noi in questi giorni, perché stanno chiamando... A me hanno segnalato anche un Mac Maren a Napoli, non so se sia vero. Dalla redazione... Non glielo so dire, guarda, si è chiamato il McAndrew, il... C'è il Mac Boone... Ce ne sono tantissimi, ho visto, quindi è vero, probabilmente per segnalare il passo veloce tanti hanno usato questa, però il nostro è una tipologia totalmente che non ha niente a che vedere, cioè non c'è confusione di prodotti. E d'altra parte però si metta nei panni della catena che vive proprio del nome. Quindi... Guardi, io oggi mi sto mettendo proprio nei panni della catena, allora... Il primo McDonald's qua vicino al mio paese è a 2 ore e mezza di curve di macchina, okay? Cioè Cagliari, perché noi siamo a 2 ore e mezza da Cagliari, 2 ore da Olbia, quindi dico che fastidio può dare. In il panino non ha alternativa, lo spuntino non ha alternativa, bisogna andare da Puddu. Sì, qua se tu vuoi mangiare una cosa veloce cioè, per forza devi venire da noi, altrimenti a Cagliari 2 ore e mezza di viaggio per andare e 2 ore e mezza per tornare. Quindi sono 5 ore per mangiarti un... E poi per andare a mangiare un hamburger preconfezionato. Un hamburger McDonald's. No, scherziamo, non sono preconfezionati, sennò fanno causa. Sono buoni anche loro, non lo so, però questo non glielo so dire perché non li ho mai assaggiati. Però le posso dire che i nostri curgioni sono... Non ha mai assaggiato un McDonald's hamburger, dai! No, mai. Mai, perché non mi è mai capitato, sinceramente. Prima uno si mangia l'hamburger e poi... si mangia magari il dolce tra l'altro abbiamo anche noi l'hamburger qua nel nostro locale, che è un hamburger fatto con le carni nostre, cioè praticamente lo facciamo, però l'abbiamo chiamato pensavo peggio o mozzafiato, gli abbiamo dato dei nomi nostri molto particolari, ecco tutto là. C'era il King de Puddus che va alla grande, ecco. Ah, ma allora lei proprio non scherza, cioè non solo Mac Puddus ma pure i nomi dei panini è andata a copiare. Sì, un panino l'abbiamo fatto anche così ironico, ecco, questo sì, è vero. Cioè, però ripeto, i prodotti comunque che noi abbiamo sono tutti quelli curgioni, le bistecche del genere argento, abbiamo il tagliere supramonte. È una cosa un po' alla napoletana questa qua, mi scuseranno i napoletani, questa di andare a copiare. No, assolutamente. Invece, guardi, è semplicemente vendere qua nell'ambito locale i prodotti che facciamo noi, tutto là. Poi ripeto, tutta questa grande, questo grande, questa grande, non lo so come possiamo chiamarla, caos mediatico, è una cosa eccezionale anche per noi, non, sicuramente non ce l'aspettavamo. Va bene, grazie Ivan Puddu, buona serata e buon appetito a questo punto, perché siamo dietro i fornelli a quest'ora, quindi buon appetito anche a voi che sicuramente siete noi no, non siamo dietro i fornelli neanche davanti, siamo proprio lontani, per cui la meta è ancora lontana, però insomma ci ha fatto venire fame. Grazie a voi, andremo a trovarla, arrivederci, a risentirci anzi. Abbiamo ancora qualche minuto per pochi interventi, chi sentiamo? Abbiamo forse qualcuno in attesa, Enzo da Padova, buonasera. Buonasera. Eccolo qua. Sì, prego. Una considerazione veloce è che le aziende per investire fanno i calcoli sui costi generali, non quello del lavoro, e i costi della burocrazia sono enormi, e questo è un problema di tipo politico, se non viene risolto è chiaro che le aziende estere non vengono in Italia e che quelle nazionali vanno al di fuori. La seconda cosa è che ha ragione Maroni quando dice che c'è qualcuno che vuol fare la festa a Berlusconi, la festa a Berlusconi la vuol fare la Lega, chiedo scusa, e la vuol fare avendo già trovato il candidato che sarà quasi sicuramente il nostro ministro Tremonti, che dopo aver bruciato Scajola sulla faccenda del regalo dell'immobile, si sta preparando il terreno per la... Vabbè, non è mica stato Tremonti a bruciare Scajola, Scajola si è bruciato da solo. Insomma, Tremonti ha due grandi sponsor, i suoi grandi sponsor sono la Guardia di Finanza, e Scajola è stato trovato dalla Guardia di Finanza, e la Lega. Vabbè, adesso la Guardia di Finanza l'ha scatenata Tremonti, guardi che c'era un'inchiesta che è arrivata su Scajola, non c'entra sì, ma nulla. Ma capitano sempre casualmente queste cose nei momenti giusti, quando c'è un unico ministro economico che condivide la parte economica con Tremonti, il quale... ma casualmente si trova a questo punto l'unico ad avere il grande portafoglio del governo in mano, per carità, sarà pure un caso, però sono quei casi che puttano tremendamente. Grazie, e comunque mai come ora è stato zitto se non andando a Rimini. Carlo da Roma, grazie, passiamo un altro ascoltatore. Carlo da Roma, buonasera. Forse Carla, sì, ho letto male io, mi scusi. Buonasera. Prego. Volevo semplicemente dire che quando ho ascoltato il poliziotto sindacalista, sì, che lamentava questo fatto del posto di polizia, io mi sono detta, ma comunque ci sono i carabinieri ed è, non so se si possa definire caserma quella che ha Torbella Monaca, però è piuttosto importante. Allora, non so se parliamo della stessa cosa, perché il sindacalista che noi abbiamo interpellato ci ha parlato del posto di polizia, dove prima si potevano fare le denunce, poi era un posto di passaggio per i poliziotti, che è stato chiuso. Lei dice ci sono i carabinieri, ma sarà un'altra cosa? Guardi, sono dei luoghi di sicurezza pubblica che erano, sì, contigui. Io non so quali siano le ragioni della chiusura del posto di polizia, che peraltro era, per esempio, chiuso la domenica. Sì, però insomma era particolare. Era qualcosa. I carabinieri sono una presenza importante. Sì, ma non è che volevano fare competizioni tra polizia e carabinieri. Ma non è questo, ma quando si organizza la sicurezza di un territorio, sì, si calcolano le forze in gioco, la quantità di uomini, la quantità di mezzi. Probabilmente. Cioè lei dice che bastano i carabinieri, ma mi pare che a Torbella Monaca ci sia un po' di carenza di sicurezza, se no di che stiamo parlando, mi scusi. Ma il problema di fondo è come posso dire, il modo come le abitazioni di proprietà del comune sono lasciate a se stesse. Il problema di Torbella Monaca è il famigerato R5. Sì, le torri. Una la specie torre di serpentino, visto che, sì, Corviale lo chiamano il serpentone, nel quale serpentino non c'è in realtà alcun controllo e pare che ci sia molto spaccio. Quindi si tratta di un risanamento che va fatto a livello di qualità abitativa, di controllo. Sì, sì, va bene, è chiaro, ma noi volevamo fare anche un altro discorso, ci abbiamo provato parlando di servizi, perché quando si parla di quartieri, di edilizia popolare, si parla non solo della qualità degli appartamenti, ma anche appunto dei servizi. Grazie, siamo in chiusura, allora un ringraziamento a Laura Marchesi, Antonella Migliaccio, Valeria Bernardi, ci sentiamo domani come sempre dopo il GR del 18, buona serata.